Pathfinder Campus. Podcast italiano di Let's Play di Pathfinder. Che ne è del Prisley? Chi lo fa? Chi l'ha fatto l'altra volta? L'altra volta l'ha fatto Simone. Cioè, ma comunque voleva farlo l'altra volta. Io volevo farlo. Vai, Giulia. Allora, praticamente mi sono svegliata. Ah, mi è stato fatto il bellissimo rito. E Abram ha deciso di non farmelo perché aveva delle motivazioni proprie che dopo ha spiegato. Sì, relative ai miei effetti personali. Esatto. E praticamente io mi sono svegliata, ho avuto un piccolo shock per la mia altezza. Sì. Che non sono più la solita Eleni. Esatto. Non sono più una Genasi, ma sono una piccola gnoma. Vabbè. Sei salto. Anche gnomi. Però il master mi ha permesso di tenere i capelli blu. No, ti ha esplicitamente proibito. I capelli, intendo. Non ho detto la pelle. Ti ha esplicitamente proibito. Io ricordo di no. No, infatti. Io avevo capito la pelle. Ovviamente c'è la registrazione. Ci sono le prove, assolutamente. Non avevo capito la pelle, scusate. No, tutto proibito. Esatto. Oddio, allora come sei adesso? Vabbè, dai, potrai coincidere di questi capelli alla fine. Mi hai tolto il fuoco blu. Qualcuno la è diventato un mollacchione. Ci lasciamo convincere. Sì, poi sento la pressione della rete anche, no? Esatto. Tutti i follower. Tutti i nostri followers. Hai paura di essere ritenuto. Esatto. Troppo severo. Allora, dicevamo... Che mi sono trasformata e sono un gnomo. Ah, sei un gnomo, sì. E mi è stato permesso di avere i capelli blu. Non hai capelli blu. No, me l'ho detto adesso. Ok. E insomma, abbiamo continuato la nostra missione, tanto che siamo tornati sulla nave, giusto? Esatto. E Abram ha parlato, dopo una serie di domande, di Baka, del suo passato. Chi lo fa Baka? E qua pure. Comunque quindi se... Ma si gioca da solo, è veramente essenziale che si... e praticamente lui ha rivelato che in realtà ha un sacco di anni. Sì. E che ha avuto una famiglia e che ha vissuto agli antipodi di questo mondo. Esatto, chi lo sa se ce l'ha avuto. E praticamente ha avuto un figlio e prima di morire e ha avuto una, come si chiama, gli è apparsa una sposa, esatto, gli è apparsa la Dea Velikir, che gli aveva chiesto di fare qualcosa che però non aveva capito fino alla fine, no, semplicemente di giungere al mar Vishan e sostanzialmente consegnarsi alle forze dell'impero e farsi condannare a morte, come è successo. Esatto. È un po', forse, capite che è un po' per questo che lui è stato così fatalista, ha detto va bene, se dobbiamo partecipare a questo viaggio partecipiamo, perché lui ha ritenuto che fosse questo il motivo per cui la Dea l'aveva portato a intraprendere il suo viaggio di 130 anni nel deserto. E praticamente lui aveva trasferito la sua memoria, la sua coscienza, in suo figlio. Com'è che è successo questa cosa? Che aveva... Che lui essendo un samsara un po'... Era stato... predetto che lui sarebbe dovuto morire e risorgere, ma siccome non aveva strumenti per farlo con la magia perché non conosceva questi incantesimi, semplicemente ha trasfuso la sua memoria nel corpo di suo figlio, nella mente di suo figlio, certo. Che poi si è ucciso, in modo che comunque poi lui... I ricordi di suo figlio è cancellato. Esatto, i ricordi di suo figlio sono cancellati e la sua coscienza è perpetrata. Perché certo, dicevi che la psiche di tuo figlio era completamente distrutta. Esatto, annichilita. E poi cosa è successo? Che che abbiamo notato che il deserto cominciava a diventare sempre più in discesa, ti ricordi? E le giornate questa si cosa, esatto, la notavi solo tu e un altro Istral, solo voi due. E poi praticamente abbiamo visto che, Istral, giusto? Ha visto che c'erano dei buchi, no, non mi ricordo, cioè quelli ho visto un po' abbastanza subito. Sì, li abbiamo visti tutti. Questi buchi qua, degli insetti. Degli insetti. Tanto che tu hai provato a mandare. Esatto. Hai provato a mandare il tuo corvo e il corvo si è salvato a stento. Sì, che l'ha rischiata bella. Ed è riuscito a tornare a stento sulla nave. Però abbiamo visto che questi buchi diventavano sempre di più con l'andare avanti. Ok. Poi ti ricordi che abbiamo visto una città in lontananza? E che praticamente la domanda era se lei avesse visto noi, ma poi ci siamo accorti che... No, cioè la domanda non era... Diciamo che Lunga ha detto ignoriamola e speriamo che le faccia altrettanto. Esatto, okay. Sì. E poi però non è stato... Eh sì, perché ci siamo accorti che la magia non funzionava per... Ignorare, certo. Era un senso, diciamo, ogni volta un oggetto, come dire, speriamo non ci siano effetti particolari. Ah, ok. Ha detto, non si riferiva agli abitanti, si riferiva proprio alla città. Ah, diciamo. Ok. Mm-hmm. C'era una figura retorica. Ma perché lui sapeva che ci sono città che fanno queste cose? No, però, cioè, in un posto del genere puoi aspettarti di tutto, diciamo, no? Cioè... Certo. Certo. Cioè, comunque questo campo mi sembrava molto straordinario. Sì, assolutamente straordinario, fuori del comune, veramente. Io, cioè, Avram ve l'ha detto, di solito i campi antimagia sono piccoli, tipo, cos'è, 10 piedi, un raggio di 10 piedi. E comunque ci vuole tanta magia. E ci vuole un incantesimo di ottavo che Avram ancora non padroneggia, per farti capire quanto è potente, per farne uno così piccolo. Immagina uno così grande, come ha detto giustamente Azalea. L'hanno fatto gli dèi. Probabilmente o è opera degli dèi oppure di una macchina molto potente a sua volta creata da dèi oppure da un popolo antichissimo che padroneggia tecniche che a noi sono sconosciute. Comunque appunto siamo entrati dentro questo campo antimagia con il problema che la nave è entrata per un minuto, è andata dritta a 100 km all'ora. Esatto. E poi sì, si è piantata a quel punto per farla ripartire. Perché questo campo di magia è, poi, è intermittente. Sai, io ci avevo anche pensato prima dell'altra volta alla tua opzione, no? Che torni indietro e la giri. Solo che, cioè, a questa situazione ci ho pensato un po' di tempo prima, quindi mi ricordo anche un po' impreparato, no? Su perché non si poteva fare, ci avevo anche pensato poi anche in modo più giusto perché non si poteva fare, perché c'è una nave, non è che la retromarcia. Cioè, per poter tornare indietro, devi fare una roba così. E per girarti devi accumulare velocità, magari. Ah, in parte sì, tra l'altro. Quindi... Eh sì, non è che si gira subito, forse, non so. Cioè, almeno per quello che ho visto delle navi. Ma cos'ha, un timone? Così. Sì. Certo, tutto il timone lo fai partire. Il limone, sì. Vabbè. È così. Però comunque, cioè, tieni abbastanza facilmente conto che ci vuole molto. Sì, più sì. Più. Certo. Quindi dentro... Ma tutto si riesce a fare tipo un metro ogni minuto, cioè, una cosa del genere. O di più, perché comunque ogni due minuti si riattiva. Esatto. Abbiamo notato appunto che il campo è ritmi intermittenti. Avram l'ha catalogato come ogni due minuti più o meno. Mm-hmm. E poi alla fine della scorsa sessione, sono partiti i nostri amici, no? I nostri compagni. Noi non siamo restati tutti a parte noi cinque, con Jung, Keshek e con Corinne. Esatto, la guaritrice. Sì, è rimasta. Vedi pure. Tranquillo. Quindi? E non mi ricordo. Loro sono partiti e non sono tornati. No. Ah, no questo detto ancora che non si sa. Non lo sapevamo. Sono calate le tenebre. Quanti giorni sono passati? 10 ore. Devo passare. Ha detto Jung che deve passare al massimo un giorno. Cioè 24 ore. Quanto ci voleva la città da noi? Mi pare avessi detto 3 ore. Non mi ricordo esattamente. Poco comunque. Era vicino. Comunque a piedi era fatti via in qualche ora. Sì. Sì. Quindi sono andati al calare delle tenebre, ancora non sono tornati, forse, ma per ora pare, non c'è. Pare 5 ore, forse, non ricordo. Ma comunque una volta che passano 10 ore può essere normale, non sono sì. Quindi bisogna aspettare almeno un paio di giorni. No, ha detto un giorno. Un giorno. Sì. Poi ha detto che poi avrebbe inviato voi. Noi. In caso non fossero. E lui sarebbe rimasto da solo a difendere, la nave. A questo punto da solo con Corinne, così. Sì, esatto. Non se la lascerebbe. Il motivo per cui non l'ha mandata con l'altro gruppo. Perché non è affidabile anche. Ah no, perché è molto, molto rilevante. Sì, perché è fragile. Esatto, cioè, piuttosto che non la leggi. Certo, è anche vero che è un po' la vostra l'ultima carta, perché poi ce lo pava lui. Certo, però... Comunque, magari si ci mette a qualcosa. Sì. Però non è ancora il nostro problema più impellente, perché alla fine della scorsa sessione... C'era Khan, il nano che stava, non mi ricordo. Era in cucina. Era in cucina, infatti. Stai forse cucinando, sostituendo Azalea, per la prima volta si mangiava verdura. E ha sentito sfiorarlo sul collo un tocco vellutato di gelido e freddo, che ha schivato all'ultimo istante, grazie ai suoi riflessi. E si è girato, visto... Esatto, si è girato e ha visto sul muro proiettata un'ombra che famelica si avvicinava. Non benissimo. Ed è finita la sessione. Veramente esatto. Bene. L'aveva mancato comunque. E ora? Iniziativa? E ora... Ebbene. Sì, no, aspetta. Io sono in cucina, loro dove sono? No, già, noi eravamo spazi, vero? Io sono sopra. Io sono accanto al motore e monitoro la magia, quindi lancio incantesimi di livello 0 per verificare la frequenza di scadimento, diciamo, della... Non è importante la struttura della nave. Non è importante la struttura della nave. Vabbè, no, cioè sapere disegnarla nel dettaglio. No, beh, certo. Poi diciamo, sapere quanto è distante tipo la cucina dal ponte. Ma tu lanci un grido? Io lancio un grido e scappo verso il ponte. Comunque la cucina non si trova sotto, si trova all'altezza del ponte. Oppure più sotto. La cucina si trova sotto, il monte scusa, è superficie. Sì, certo. Io ero, non ti ricordi che stavo segando la scopa. Tu stavi segando la scopa sul ponte? Sì. Per pulire, perché se la mozzo... Allora io lancio un grido e dico che c'è un fantasma. Vabbè, lanci un grido. Fantasma! C'è un fantasma, qualcosa ci si sta... Cos'è? Che cos'è? E corro verso il ponte. Calma, corri, iniziativa se corri, cioè, in ogni caso. Possiamo fare perception? Ma voi lo sentite? Ah, lo sentiamo. Che diavolo? Iniziativa? Sì, vai. 12. Più. Poco. Prima che corro. Più poco. Ma questa è quella vecchia. Penso 7. Aspetta, mi sto lì. Che cazzo è l'iniziativa su sto coso? Ah, Danilo, dici subito se la magia funziona o no, perché Avran sta monitorando. Ti posso dire a te, sta funzionando. Ah, in questo momento sta funzionando. Sì. Ecco, motivo da quando? Logico per cui funziona. Ma da poco. Da poco, bene. Scusami, non trovo dove c'è l'attacco. Infatti ci avevo pensato che fine facevano le ombre. 19 totale. No, ho letto anch'io. In pratica i non morti, se non sono evocati, ci sono normalmente. Il problema è che gli attacchi sovrannaturali non funzionano. Infatti. E le ombre fanno solo quello. Certo. Un attacca mentre non può attaccare. Certo, diciamo, ovvio, giusto. Attaccato giusto. Quando la magia funzionava. Giustamente. Ah, quindi già il fatto che lui mi sta attaccando, io riesco a capire che la... No, perché tu sei la magia funziona. Della materia assoluta, quindi no. Ok. Però io sono a conoscenza del fatto che la magia potrebbe funzionare in quel momento. No. Cioè, c'è un 50% di possibilità che potrebbe funzionare. Esatto. Cioè, così. Certo. 19 faccio. Ok, agisci prima tu. Tento di scappare verso il ponte. Ok, subisci un attacco d'opportunità probabilmente perché la cucina non è molto grande, comunque lei era vicino a te. Ok, lei? L'ombra, sì. Ah, ok. Capisce una... Ma ascolta, perché subisce un attacco d'opportunità se si muove al massimo della sua velocità? Beh, il primo quadretto riesce a far sì che non faccia... ho capito, però... Anche se salto? Se lui tipo fai conto che in cucina ci sarebbe da disegnarla. Okay? Sì, vabbè. Cioè, fai conto che è in cucina, cioè, verosimilmente dalla porta, cioè... Anche se salto faccio acrobazia. Sì. Puoi fare una prova di acrobazia per evitare l'attacco d'opportunità. Ah, sua. Figo. Io sono tipo 1000. Con le nuove abilità, com'è che si chiama? Non è atletica, è acrobatics. Ah, acrobatics. Quindi devi fare una prova di acrobazia contro la sua CMD. Sono 20. Io sono 20. Ma l'ombra è medium? Large. Medium. 39. Minchia, 19 sul dado. Ok, non riesce. In pratica fai un volteggio e non dai occasione all'ombra da di bravo, a colpirti. Monaco. Esatto. Da bravo Monaco, esatto. Anzi, tipo fai una utilizzo. Esatto. Mi riesco a appoggiare all'ombra e... Esatto. Esatto. E scappo verso il ponte. Arrivo sul ponte. Beh, sì, vero, sì, cioè sì. Corro io. Corro tu, sono morto, è anche velocissimo. Sì, sì. Ovviamente sì. Noi, cioè io mi traggo dal motore con... Sono qui sul ponte! Con le braccia ancora piene di grasso. Quando arrivi sul ponte, vedi che di ombre non c'era soltanto quella in cucina, ma una decina sono giunte sulla nave. Bella scelta. E alcuni dei tuoi compagni, per esempio Damasco e Eleni, sono alle prese con queste ombre stesse. Cioè sì, beh, proprio mentre lui arriva voi state iniziando a fronteggiare dalle ombre che non avevate visto. Ok. Parte di merda. Quindi io subisco attacco con l'utilità. Danilo. Erano di sorpresa contro di loro. Ok. Scusa. Aspetta un attimo, colpisce una per te colpisce una CA di niente, perché meno di 10. Per te invece, non c'è di critico. No, non conferma, però. Non mi ricordo neanche dove devo guardare. Subisci 3 danni alla forza. Sono morta. Ne avevo già 2, avevo già meno 2 livelli. No, quelli 2 livelli negativi fa niente. No, i livelli negativi non sono vera, no. Sono morta. Cioè... Comunque stai per morire perché hai 2 di forza. Esatto. No, dove devo scriverlo? Cosa, i danni alla forza? Fai avere 5 di forza. Hai come Avram, mi sembra. Ma no, io 7, com'è possibile? No, io ho 5 di carisma. Devo scrivere i danni, non mi ricordo. No, i danni, allora, calma, qui sono danni alla forza, quindi per ora segnateli qua. Tanto ti ricordi, tanto se ne prendi altri 3, te lo ricordiamo noi che sei morta. Di nuovo! Cioè, già pezzata. No, infatti, tanto sognavo non ti era affezionata. E poi cosa abbiamo comprato a fare l'altra? Esatto, no! Altro ti costerà. Ancora, io l'altro. Che aguzzini. Scusa, io quando sento lui che dice sono sul ponte, cioè vado sul ponte, quando posso agire io mi teletrasporto, perché sai che ho quella mia abilità, sì, che come Dimension Door. Abunda step. Sì. Tiriamo, tira tutti iniziativa. Anch'io. Devo rubare un... Scusami. Tu no. Uno. Io no. Ci fonda la battaglia. Ah, giusto. Io devo tirarlo? Tu sì. 16. Anch'io. 11. 22. Un attimo, devo sentire. Disegniamo il ponte? Sì. Beh, ragazzi, se fossi voi non sarei troppo in pena, perché vi ricordo che c'è sulla nave. Ah, è vero! Jung che esce. Dov'è la Jung? No. Non lo so, Gero. È nella sua cabina. Ma al solito a trastullarsi. Esatto. Maledetto. No. La cabina del comandante con esatto. No, con Azalea. No, Azalea è alla non città. So se è fatta come le navi dei corsari, ma la cabina del comandante è sul ponte. Sì. Come? La cabina del comandante è a livello del ponte. Ah, a livello del ponte, come bello, le navi pirate, certo, come navi pirate. Esatto. Certo. I pirati verdi con la katana in questo caso. Esatto. Fa niente. Chi è che mette il nostro? Siamo un po' alla Davy Jones. È vero. Ok, dai, iniziative voi. Io Baca. 16. Baca che cazzo stava facendo? Ah. Baca, è vero. E Baca stava... No. 20. E Baca arriva dopo perché sarà a proteggere la sratite, non so. È vero. E arriva in 18. Generale. Ha tirato 18. 18 beh, più 5. Muove il quadruplo per due turni. Ma adesso non resta a proteggere la sratite, magari. Essere. Potrebbe anche essere. Sai, sì. L'altra volta è stata rubata proprio mentre c'era un attacco. Sì, peccato però perché... io dovrebbe ordinare Jung di lasciare la sratite. Secondo me se lui sentisse qualcuno che urla, andrebbe sul ponte. Se Jung gli ordina di stare a protezione, non so, perché l'ultimo ordine diretto è proteggere la sratite. Esatto. È anche abbastanza un compito molto importante. Okay, beh, però... io direi che per ora non va. Se poi noi urliamo, stiamo morendo, Baca, soccorrici, lascia stare la sratite. Esatto. Mi sembra che ci stia. Vabbè. Peccato perché è il nostro pool di forza, perché questi qui fanno danni alla forza, come hai capito. Come hai capito da lei che ha preso 3 danni su 5. E se vai a 0 sei in coma, morto probabilmente, forse. Morto. Però avevamo fatto la house rule che non si moriva per davvero. Ah, meno male. Con le ombre si andava in coma. Ah, mi piace questa house rule. Anche con Simone l'hanno fatto. Okay. Sì, perché sono un po' sbilanciotte, soprattutto contro i caster che hanno 7 e 5 di forza. Ah, sì. Io ho fatto 16. Che pippe siete? Sei morto bene da giro. Almeno tu? 22. Oh. Morto bene da giro. Allora, tocca a Eleni. A voi... Cambio di forza contro un'ombra. Ma cosa facciamo? Disegniamo. Che scappa, probabilmente. Sì. Allora, in pratica, il fatto è che lei è sopra il pennone, cioè sopra la cosa. Ah, è sull'albero. Si chiama qualcosa. Dividila in due, dividila in due. Si chiama in un modo, magari, la cabina. Non lo so. Il cosino, il trespolo, visto che è un corvo. Esatto, sta sul trespolo. Hai detto il trespolo. Quindi, ok, la mettiamo sul... Falla al centro. Già, abbiamo fatto una battaglia sul ponte, quindi sì, più o meno mi ricordo. Damasco, quanto hai cos'è? Acrobatics? 19. Dai, fai così, prenditi tipo le cime, ti ti cali giù con i piedi puntellati sulla cannone, spari, tenendoti con un braccio. Ah, perché? Cioè, nel senso, perché tecnicamente questi non beccano la magia. Ah, perché non beccano per le armi magiche. Cioè, nel senso, io non ho un'arma magica. È vero. Non è vero, c'è la Sky Pistol. C'è la Sky Pistol, più uno Sky Pistol, ma ce l'ho io. Allora io vengo da te, mi butto giù con le spugne. Perché tu non hai arma. Cioè, nel senso, in realtà... No, ho due pistole, non sono arma magica. Mm. Però cioè... abbiamo preso una Sky Pistol, che... tecnicamente sarà mia. Beh, ovvio che tu e vengo a prenderla subito. Ma io ce l'ho dietro il mio equipaggiamento, non lascio in cabina le cose. No. Ecco, ti serve? Se potessi una bacchetta. Tipo lo zaino. Però l'equipaggiamento è il tesoro del gruppo. Quello dico, il tesoro del gruppo. Però no. È un po' improbabile che me la rischio e vado a prenderla, se no non faccio un cazzo. Io ho l'arco dietro mentre cucino. Sì, siete armati generalmente. Sì, quello sì. Armati sì. Armati, sì. Con l'arco. Cucini con la freccia. Vabbè, sì. Ma fai chiarino un attimo. Minchia, sei in una landa desolata, escono delle lame dal deserto, eh. Quindi non è che sei a farti un giro alle Hawaii. Ci sta, che hai dall'arco. Già tanto che non dormi con l'armatura, cioè. Vabbè. Prendendoti le penalità del caso. Quindi sul ponte siete in tre, sì. Io sono ancora sotto il ponte. Due. Uno e D. Il damasco e una tromba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prima ad agire sono alfa e beta. No. Bruttissime. Si è diventato un po' basso. Come le vediamo? Alfa e beta rispetto alle altre. Più grandi. Più minacciose. Più minacciose. Sono Shadow Greater allora. Fanno un D8 alla forza. Da 6. Porca io. Cioè me ne fanno uno e crepo. È un bel D8, dai. Ok. Una media di 4,5 danni alla forza, dai. Vanno su Khan. Noto che Giorgio ha la tipica faccia di quello che per la prima volta incontra le ombre. Noi ci hanno già ucciso dal mezzanti PG. Quello di tantissimi danni. Proprio ogni volta se ne portano dietro uno, quindi non c'è problema. Scusa, ma devi uscire subito sto qua e ammazzarli, bro. Yunkai, la fede in Yunkai Shack. Yun ci ha sentito, sta uscendo anche lui. Io, tranquilli, ragazzi. Dov'è? Perché non hai segnato? Che top. È la stessa preoccupazione che ho avuto anch'io. Direi, scusa, 30 contro la C-Attacci ti colpisce, no? Sì, c'è 25. Sì. Okay. E allora subisci 2 danni alla forza. Ti va bene. Ma quando mi si ristora sta a fare? Dormendo, sono damage, quindi ogni volta che dormi uno. Sì. Non benissimo. Non benissimo. Tu cadi? No. Ah no, scusa, l'altra. Avvicinati alfa e beta a te, scusa. 23 flat footed. No, è touch, non flat footed. Ah, touch. Ma adesso dobbiamo fare la roba della rimozione degli attacchi iterativi. Sì. Figo. 24 flat. Avvicino alfa e beta a me come voglio io. Ma te ci attaccio? Ci attaccio 24. Ok, ti manca. Quindi, aspetta, 2 danni a forza. Alfa e beta dove li metto? Fianco a te. Dove vuoi? Allora, casaccio. Qua sì, alfa. Si mette una casaccio. E qua beta. Vai, prossima ombra. No, hanno fatto, tocca a Eri. È giunto il momento a te la scelta. Io farei... Cioè, tu non sai se loro vedono l'invisibilità, eh. Quando arriva Avran te lo può... Probabilmente te lo può dire, però... la scelta a te. Qua la matita. O scappi. Quanto hai fatto? Allora, sei tu? 0, ho fatto 3 più 3. Ah, ok. Io... Quindi prova 12 temporanei. E allora cioè, allontanati. E poi al prossimo turno, se Avram ti dice che loro, no, che loro se vedono l'invisibilità. Ah, no, aspetta, io comunque prima non ho tirato. Poi puoi ritornare. Tanto fai allontanati, fai uno scorching ray da lontano. Ok. Sai, il tuo attacco. Io arco in mano. Ah, o no? Con, il tuo raggio di fuoco. Sì, sì, okay. Anche se potrebbe. Cioè, l'ho preso in mano mentre corro. Sì. Ok, dai. Se via B almeno più uno, si può. Possono seguirti, però. Sì? Se vuoi proprio via B almeno più uno, puoi prendere sì, in mano. Sì, per fare qualcosa. Cioè, se vuoi metterti al sicuro, scappa del quadro più la velocità e via, però. No, vabbè. A parte che è un po' duro. Ma se no, puoi andare a prendere le scale. A parte che anche se fa quella cosa lì. Se no, facciamo una cosa di muoverti in linea retta. Ah. No. Dimension d'oro. Ah, fa Dimension d'oro. Puoi andare a prendere le Sky Pistol di Damasco. Esatto. Loro sono, cioè sono salva e ti aiuto. Così io da bene. Sopra, dal trespolo sopra, ma lei ha due la mia Sky Pistol! Buona, ti guardo e faccio dimensione. Sì, anche perché io... Devi fare una prova per castare tua difensiva. Forza 7, quindi... Dai, che adesso arriva Avram. Ok. Devo aspettare ancora un round per agire. Adesso arriva Young. È questo, giusto? Concentration. 23, giusto? Cioè, quello lì che devo guardare. Defensive no, casting. No. Quello... Ah, c'è un parametro per il defensive casting? Sì. Davide. Defensive casting hai più 4, perché hai in tutto 23 di concentration. È giusto. Ah, minchia, mi serve lo passino automatico allora. No, boh, di 4. Quanto è la DC? 15 più il doppio dell'incantesimo. Quindi 20... Bene, andate a disegnare questo qua. 8 più 15 fa 23. 23. Allora sì. Preciso. A posto. È sbagliato a disegnare 4 o 5. E allora vado a prendere la Sky Pistol. 4 o 5? Vabbè. Vabbè, dai. Lo quanto lo cancello. Ok. Poi? Poi tocca alle ombre. 4 e 5 e 7 si arrampicano verso Damasco. Oh, queste ombre che sgusciano sull'albero, no? Così. Quindi sta scherzando, vero? Io mi raccolgo così. Tutte le mie piume e mi butto a banca. No, una micchia piange in un angolo per la paura. Esatto. Cioè, io sono una pirata, ma non ho tanto sto cuore. No, ballerisco, ragazzi. No, però uno è già lì e ti attacca comunque. Fa culo, stronzo di merda. Quanto hai di attacco? Che cazzo è adesso? C'è attacco, dodo. Mi metto qua vicino. Ah, ma non si arrampicano, volano, scusa. Li ho messi, messi qua. Vabbè, però sgusciano piano piano verso... Okay. Beh, certo. Adiacenti all'albero, per questo. Vero? Essendo ombre, comunque cercano di stare adiacenti agli oggetti, per aspettare più figo. Certo. Sono ombre, no, si spostano sulle cose. La C-Touch, qua dove c'è combattimento, base combat, qua c'è la CA. Touch, armor class, touch, 4, ah, 18. Ok, ti manca allora. Mentre, c'è lei che se n'è andata. Non è andata? Cosa hai fatto, scusa? 3, 6, si muovono le basse e circondano... Circondano K. 3, 6. Si devono muovere basta per arrivare quindi. Quindi dove arriva? Arrivano vicini? No, no, ci arrivano proprio addosso. Ah, che cazzo. Quindi lo metto... Forse 2 non ci arriva. Dimmi dove li metto. 2 mettilo a metà strada. E poi chiaramente le altre 3 6. Le altre 3 6 invece mettiamo. Quindi 2 lo mettiamo qua. Sì. E 3 6 è vicino a te. Qua 3. Sì, e l'altro sull'altro. E qua 6. Un massacro. Un massacro. Ok, tocca a quelli che sono in fondo all'iniziativa. No, tocca a Damasco, scusa. Tocca a me? Sì. Beh, allora io col mio cuor di leone. Ma scusa, tu hai fatto meno di me. Io ho fatto 16. Io ho fatto 11 in effetti. Ah, scusate, tocca a cane. Io provo a colpirli con l'arco? Sì, il primo che ho davanti. Minchia, quindi sì. Alfa. Senta, sai che non mi ricordo come funziona il poter fare più attacchi su più persone. Devi dichiararlo prima e lo fai contro quello con la CA più alta, mi pare. Ah, sì, era così. Che cosa? Sì. Spiega un attimo. In pratica, se vuoi colpire più persone, cioè nel senso, se credi di poter uccidere più di un'ombra, non è più come prima il fatto che abbiamo tolto gli attacchi iterativi che li fai e poi cambi idea. Quindi dichiararlo prima e fare. Però quelli con la scia più alta sono quelle greater, diciamo. Quelle che vedo più minacciose. Sì, esatto. Sì. Puoi decidere di attaccare soltanto quelle piccole, oppure di attaccare anche loro, quindi cercare di colpire. Oppure di attaccare solo una. Attacco alfa. Solo alfa? Sì. Va bene. Ci sta. Comunque non è detto che quelle greater siano... So qualcosa sulle ombre, so più o meno se basta una freccia magica per ucciderle. So... Loro prendono la metà dei danni, le abbiamo già incontrate, eh? Sì. Abbiamo già posso fare le persone incorporee. Posso fare una prova in qualche quindi modo? Sì. Per dai, cercare. No, vedi che sono incorporei, te lo aspetti comunque. Prendono la metà dei danni. Okay. Ma tipo, so che basta una freccia per ucciderle. Ah, questo non so che... è un pari di idee invece di questo, ovviamente. Non sai quanti punti ferita hanno. Esatto. Non sai neanche quanto sono forti. Potrebbe essere un CR20 per quanto ne sai, sei morto. Però, non lo penso bene. Però ci devi provare. O scappi giù dalla nave, ma. Ma sì, provo a fare sto full attack. Io vedi un po' come. Cioè, non ti sono visto che ti mancava spesso, non ti sono sembrate così pericolose, diciamo. Certo, facciamo full attack su alfa. Va bene, tira un dado e vediamo. Da 20. Una volta solo adesso. Eh sì, rimozione degli archetti iterativi. Rimuovere la varianza. Perché così siete più pippe, vai. Ah, che merda. L'hai tirato. 8 più. Questi sono gli attacchi. Va. 19. Anzi, 20. Ti devo dire cosa sono. Ci devi dirlo prima. 18. 8 più 18 o 26. 8 più 18. 26. Non tantissimo. Ah, vabbè, dai. Ho deciso di sommare 18 e non 21. Ah, bravo. Però forse a sto punto è meglio sommare di più, perché magari scatta un attacco in più. Beh, però mi puoi fare un... Cioè, non lo so. Facciamolo, dai. Con questo qui avevo... 26 totale, quindi. Sì. Fai due attacchi, però... Tu stai come facendo come il tuo con fighting, no? Mm. Quindi ne fai 4 in realtà. Perché, cioè, il tuo profiling te ne fa fare uno in più al massimo, uno in più al secondo massimo. Ah, è vero. Cioè, in quel 18 lì è già contato il malus che dovresti contare secondo le varie regole. Quindi ne faccio 4. Quindi ne fai 4. Ah, bene, dai. 4 hit. Sì, si è appena un attimo la mano, quindi certo. Sì. Appena impariamo bene. Sì. Cavolo, dobbiamo farci anche il tiradadi. Ok, io faccio quindi 4 di 8 più 48. Se vuoi te lo lancio con il tira di rapido. No, no, grazie, okay. Mi piace, tira di 8. Ti ha 4 dadi. Infatti, 4 di 8. Se li trovo. 1. Inizia a tirare 2. Qualcuno c'aveva qualche idea. Tira quelli più volte, dai. Sì. 8. 5. Cazzo. Vabbè. Magari, se gli ho fatto tirare, vuol dire che... Comunque poteva anche non farlo, non poteva anche non uccidere. Quindi ha... Tirava tutti uno per ma due. Considerati anche i fissi? 48, sì, sì, okay. 48, sì, sì, più, non lo so. Quindi okay. Più 13 è morto, quindi al massimo 60. C'è la alfa. Massimo 60 PF. Sì. Ombre Greater, bravo. Bravo, mi chiesta la veloce così di stare. Bellissimo, molto intelligente come variazione. Questo degli attacchi iterativi ci sta. Però, cioè, mi dici tu quanti attacchi sarebbe faccio? Sarebbe molto uguale, però si mette su. Io non ho la mia idea, mi dici tu quanti attacchi faccio ogni volta? Sì, okay. Certo. Io tiro e tu mi dici quanti attacchi faccio. È lui che lo deve dire. Certo, ve lo dire io. Ok, perfetto. È morta, oh buono. Eh sì, ok, tocca adesso. Cioè, quella grande è già calvata, eh? Sì. Yeah. Una. Tocca a me. Poi sciottiamo tutti quanti. Prima quando tocca a loro. Infatti. Te forzai. Che domanda è? Tu hai un'alta CIA touch e sei privilegiato, mentre Damasco rischia. Io 24 CIA touch e forse ancora 12. Cioè, che quando arrivo io avevo un po' di gente, però. Tu è? No, scusa, non è arrivato anche Jung. No, arriva a fine battaglia come lui, prossimamente. Sempre che. Cioè, già non abbiamo. Sempre che non si stesse davvero trastullando, a quel punto ci mette due round. Dai. Quindi doveva finire. Non è dentro. Baka è a tutela della. Cioè, già non abbiamo Baka. Anche lui, Jung. Che lagne che sento. Io qua. Mi aggrappo alla corda. Mi aggrappo alla corda. Tolgo il contraccolpo con la. Ah, la col corino. Piede mi butto giù. Non arriva come. Io sto arrivando. Grande. È nascosto segregato. Senza la i tuoi punti ti puoi buttare tranquillamente. Tanto i PF. Questi non ti fanno danni i PF. Quindi puoi perdere quanti ne vuoi. Il che è peggio. Tristezza, vero che sì. 24 in acrobatics. Sì, mi dai. Butto giù. Arpeggiando sulle scotte. 24, le aspetta, dov'è l'entrata del del suo di dove tiene lui le... Sotto. Io. Sotto? Sì. Allora verso però sai che lei te le sta portando. Lei verosimilmente sarà sotto, no? Quindi io mi butto per l'entrata. Usare un'altra dimension door per tornare. Ah, esatto, la dimension door. Vabbè, mi butto giù. Punto. E boh, poi non hai armi magiche, quindi. E no, vado dove? Al massimo dove? Vado da che parte? Vado nel dalla cabina di Yunkeshek e mi attacco alla porta. E l'occhiale, non so, di scemo. E busso costantemente. Okay. Quindi vai qui. Va bene. Si cancellami da lì. Ah, bene, attacco opportunità da uno comunque. È vero, può fare una prova per evitare. Fare una prova di acrobazia. Un'altra? Sì. Quindi ti metti qui, vicino alla cabina? 19 più 7 fa 26. Okay. Quindi Damasco afferra una qui? Corda e scende attorcigliandosi con la corda attorno al, e si spiaccica la al tronco. Poi plana un po' con le esatto. Ali. Questa qui è la porta che ho messo qui. Si lancia, fa una capriola planando con le ali, arriva davanti alla porta di Yunkai Shack. Esci, esci, esci, esci, esci. Tipo... Tu che dici di essere il nostro padrone? Ok, e mo? Le ombre. Stronzo di merda. No, le ombre hanno già agito, no? Tocca a salire fuori dalla battaglia. Tocca ad Abram. A Jung. Calmo, madonna. E a Corinne. Che viene già a curarci anche se non abbiamo... Corinne, curaci la forza. Non cura la forza. Non è così bello. L'avevamo usato la bacchetta l'altra volta. È vero. Eh sì. Vai, fai agire Jung. Chi usa la bacchetta ancora? Faccio agire prima Jung. Chi è la bacchetta? Cos'è la bacchetta? La bacchetta per curare i danni alle caratteristiche. Ce l'abbiamo. Sì, uno. Dai. Eh sì, un attimo. Fa agire prima Jung, va bene. E esce e spazza via un paio così, solo a guardarli. Ma Sodoma, cioè, di solito vola sul ponte. Aprire la porta è un'azione di movimento. Vabbè. Quindi. Vabbè, basta che si mette in mezzo a prendere un po' di danni alla forza. Quindi, vabbè. Jung apre la porta. Vabbè, poi fa bunda step qua in mezzo. E poi. Con la sta. Sì, usa abundant step con la sua stanza per spostarsi vicino. Per spostarsi su in alto, dove c'era prima Damasco. Ah, veramente? Sì, per osservare la situazione. Ma come? Un attimo, poi attacca. Tanto non poteva attaccare adesso. Jay lo chiama. Ma così si deve spostare anche dopo e non fa il fullaccio. C'ha l'abundant step lui, c'ha dimensional dervish. Lui fa tutti gli attacchi. Ah, che bellissimo. Spostandosi dove vuole. Grande. Che figo. Non posso mettere anche io il tempo. Ah, a me non serve niente. No, tu potresti prendere Dimensional Dash, però, cioè, per fare attacchi in figo, tu fai attacchi in sì, infatti non ha senso. Mm-hmm. Ok, tocca a me. L'ho messo io allora. Sì, vai. Damasco, direi che sei stata efficace. Ovviamente con 30 piedi non riesco ad arrivare sopra, no? Beh, potresti essere 30 sotto. 30 piedi sono 6 metri. Se sei sotto il ponte, sì. No, beh, la macchina è ovviamente 2 piani sotto. Che io pensavo. Dimmi tu. No, riesci. Ok, allora uso la mia abilità speciale. Con una standard action posso muovermi di 400 piedi. Ok, va bene. E mi sposto sul ponte però a mezz'aria, ok? Uh-huh. Quindi mi trovo magari accanto a Jung, insomma. Tu vuoi perché è sempre Overland. Io Overland Flight. Quindi sono circa l'altezza del pennone, un po' spostato. Ah, scusami. Come funziona il mio attacco in più che faccio con il key point? È al massimo del bonus, quindi... Sarebbero stati 5? Sì. Ok. Vabbè. Sì. Esatto. Cioè Byron no, però noi facciamo sì, esatto. Lì è Byron. Che in teoria è più che soltanto un attacco in più che puoi fare, che però non si capisce perché, che cioè come si chiama di essere un attacco al minimo del bonus, non ha senso. Comunque sono accorti adesso che gli attacchi più al massimo del bonus sono forti, forse hanno detto sì, è tutto sgravo in effetti. Vabbè, era sgravo prima. Era sgravo prima e anche adesso. Senti, io credo, di solito Sodoma gira sul ponte, no? Quindi sarà vicino a me e uso la sua... E gli faccio lanciare Haste. È alto, più alto di... Chi l'hai fatto Haste? È più alto di 30 piedi il pennone. Sì. Sì? Sì. Più alto di 6 metri, sì. Sì. 6 metri però, sì, è parecchio. 6 metri è 2 volte. È il doppio di questo. Per noi l'altro. È più alto. Sì, allora, almeno 10 metri. Anche allora di più. Sodoma lo lancia su quelli sotto. Su loro. No, però da... Cosa ci lancia? Haste. Sì. Agio. Cosa prego? Ci siete... Alza più uno anche lascia touch. Sì. Agio. Va bene, la fa su loro due. Su Damasco e su Khan, anziché su Jung. Tanto Jung, cioè... Può prendere pure Dante. No, più che altro, cioè, uccide tutti comunque, quindi... È bravo. E fa così. Dire. Stop. Quindi cosa fa? Ci ha... Visibility Greater. Ci ha Reflex Saves, tiro per colpire più uno. E un attacco in più. E un attacco in più. Comunque, vedete dal nulla comparire Avram che volteggia e... Ma ce la fa Avram oppure il... Su ordine di Avram... Sodoma plana vicino al ponte e vi lancia e vi sentite velocizzati. In fretta! Per non morire! Ci stai a sbagliare! Va bene. Scusa, per la conoscenza dell'invisibility greater. Ah, giusto. Posso fare una prova di conoscenze per sapere se vedono l'invisibilità? Secondo me. Mm-hmm. Hai detto anche più uno al danno? Noi ci aspettiamo, Bach. Solo tiro per colpire. Ah, ok. Se fosse contro un nemico solo farebbe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 attacci. 9 attacchi. Però, perché? Perché c'è Medusa Sprat che può farne di più. Ah, che figa. Jung? Però non è contro uno solo, sì, però non è contro uno solo, quindi fa solo 6. Vabbè, faccio un tiro, faccio un tiro. Sì, ma tanto farà una cifra di danni, quindi shot. Eh no, perché non c'ha neanche... È vero, no, perché lui è specializzato contro un singolo. È un solo, sì, certo. Perché c'ha anche wild flanking, quelle cose lì. Però diciamo che ne ucciderà almeno 2 o 3. Sì, certo. Faccio un tiro di conoscenze e religioni per sapere di più sulle ombre, soprattutto se vedono l'invisibilità. Tirato 6 più 18, 24. Ok, sta sia su quelle... Non mi ricordo mai quanto è la CR. Il CR. Era di ciclo, vabbè. Pare che sei 10 più CR. Cioè c'è altro di 8. Vabbè. Di 8. Sai che no, non vedono l'invisibilità. E che... Il problema principale appunto è la loro capacità di fare attacchi a forza e il fatto che non hanno bisogno di oltrepassare armature per poterti colpire. Certo. Detto questo, ti ho visto Giorgio. Tra quelle grandi e quelle cosa hai fatto? Scagliare una cosa piena di dadi contro il microfono, ti ho visto. Non ho detto niente, però ti ho visto. La peculiare, cioè, quello che quelle grandi da quelle piccole è che quelle grandi, diciamo, sono più difficili da colpire e a loro volta invece colpiscono più di frequente. Ho capito. Come tutti i nemici più grandi di svettare. Esatto. No, però non è che hanno abilità particolari. E fanno un danno maggiore, no? La forza, tipo un danno. Sì, sì, vabbè, abbastanza oscura. Sì, quindi... infatti, fanno praticamente un danno in più. Quindi sì o no? Ma no, quando esci te lo dico. Okay. Quando esci te lo dico. Ah, ok. No, ma tanto adesso devo tornare con la Dimension Door. Sì. Non puoi sai che se uno di voi... Ah no, però abbiamo messo che non è così. Sai che spesso quelle grandi magari tendono a fare un attacco e poi ritirarsi. Adesso non lo stanno facendo. Cioè, quella riviera non l'ha fatto, ma... Spesso non è loro attacco. Per ritirarsi in che senso? Cioè, fanno un attacco e poi riescono a tirarsi perché c'è una abilità speciale per cui possono... Cioè, sarebbe una sorta di spring attack. Per cui... Riescono a svanire. No, cioè, possono fare un attacco a metà del movimento. Questo. Ah, ok. Figo. Ok. Va bene. Okay, sì, c'avevo anche io un talento per fare una ragione. Tocca a Beta. Che è di fianco a Khan. Che ti attacca, Khan. 24 c'è dodge. Non hai fatto una mischance prima, vabbè. No, io c'ho Dark Vision. Ah, già. Tu c'hai Dark Vision. Giusto. Sì. Allora, niente, bravo. Niente, fa... Colpisce una... Dov'è? Le 24. Niente, ti manca allora, miseramente. Bravo. E poi si sposta indietro. Indietro cosa vuol dire? Indietro rispetto a te, di qua. Si allontana. E mi quanto? 3 quadretti. Tu non mi ricordo se fai attacchi d'opportunità. Cioè uno, due, tre, l'arco. Mi pare di sì, no? Io sì. Ok, allora fai un attacco... No, però usa... Beta era questa? No, beh, niente, non c'è l'acqua. Faccio attacco opportunità? Sì, fai attacco opportunità. Perché, sì. No, però non mi ricordo. Sì, sì, dovresti avere una vita d'amore. Sono abbastanza sicuro. Sì, sì, ce l'ho. Da qualche parte ce l'ho. Esci una? 5 più, scusami. Dove? Ancora non capisco come funziona sta roba. No, niente, questo qua è soltanto dirmi il massimo come al solito, non c'è niente. Ah, tu dici non riesci a leggere la scheda, a trovare cose su. Sì. Vabbè, normale. Sono lì tipo da 5 più facciamo 21 questa volta. No, no, è se uguale a prima, il mouse te lo tieni, non puoi. È fino a fine del round il mouse del DM e le varie cose. Ah, sì? Sì, sì. Ma infatti io ero l'ultimo round. Lui è il primo round dopo. È fino al turno dopo. È fino al tuo turno. Ah, ok. Quindi 18. Allora 18 più 5 23. Ok. Ti manco. Ah, vedi te. Sì. No, l'ho colpito, colpito. Ok, quanti attacchi faccio? Uno. Ah, ok. Sempre uno. 8 più 12. 8 più 12 fa 20. Questo è già metà della vita. Ok. Bene. Ora tocca dopo a Beta, cioè dopo le ombre grandi, o Maialla, tocca a Eleni. Che torna. Che è sotto? Beh, tu devi prendere l'equipaggiamento. Ce la fa. Si è trasportata giù. Beh, con azioni di movimento ce la fa. Beh, prima si è solo teletrasportata, però dopo che si è teletrasportata non puoi fare più niente. Esatto. Con azioni di movimento, no, pensavo c'erano magari almeno due per prendere anche sua roba, quindi... Scusa, non può prendere il trasporto. Un'azione di movimento prende la Sky Pistol. No, mica siete da qua da sopra la Sky Pistol. E come no? Dovrà arrivarci alla Sky Pistol. Ma no, scusa, lei sapeva già dove era. Vabbè, magari non sapeva esattamente dove era. No, perché comunque lui non era su. Un metro e mezzo da sapere. Cioè, lui non era su, non mi ha detto vai lì e no, quindi no, non poteva. Non sapeva dove era. No, no. Ok, allora. Cioè, sa la stanza, ma non sa dove è la stanza. Certo. Ho meno usato Sky Pistol comunque. Ok. Arrivo! Adesso la cerco! Dov'è? È sul tavolo! Ma non c'è sul tavolo! Adesso arrivo io la trovo! Lo scommetto! No! Esattamente. Guarda bene, ma se vengo io la trovo, cosa fai? Ok. Ma poi tocca al Shadow. Shadow? Che... No. Ma scusa, prima ho agito io di loro. Ah no, non è vero. Che allora, attaccano te 3-6. Sempre 24, non pare. 25, 25 anzi, scusa. Niente. Prima sempre 25. E niente, va bene. Che ci ho visto. E le altre invece finiscono di arrampicarsi, sono attorno a Jung e lo attaccano tutte. Sono... 5. 5 sono. Jung non prende anche il danno. E poi... Fai ragazzi. Eh? Asciutto un paio. Cazzo. Guarda, non ti tirano basso contro di me, invece tirano alto. Ah, però manca lo stesso. E vuoi che ci faccia lui? Cioè, va a 30 ci attacchi. No, non fa tantissimo in CA in realtà. No? Non è tutto su attacco. Com'è che così tanto in CA faccia l'altro? Com'è che c'è una saggezza più alta? Lui ho dato di più. C'ho ben 24. C'ho 10 di dodge, 3 di destrezza e 1 di deflection. Più un altro di haste. 25 adesso. Sì, io ho sbagliato qualcosa, non so perché. Ah, no. Ah, tra l'altro ho più 4 con 3 attacchi in opportunità da CIO. Vabbè. Certo. Grazie. Comunque la prima non l'ha mai colpito. I più 4 alla CIO attacchi di opportunità. Ma incredibile, contro di me ho tirato un 18, 17, no, cioè un 17, 18, 20. Ah. Cioè no, tipo... Sì, c'è 18-20. Scusami, io prendo più 4 contro gli attacchi di opportunità alla CA. Cioè, anche se è touch. Ci dici ancora, quindi vabbè, comunque l'ha colpito. Aspetta un attimo. Quante volte l'ha colpito? 4 volte? No, una volta, però col 20, cioè... Assurdo. Ma quindi ha crittato? No, perché non ha confermato. Comunque deve tirare 19. Niente. Niente. E niente. Secondo me. Ok, lui comunque viene colpito, ma... Non sembra troppa importanza la cosa. Ah, grandissimo. Tocca a Damasco. Tocca a... No, tocca a te prima. Tocca a me? Sì, viene Damasco, tocca a te. Aiuti lui dire prima a chi attacco. Mm-hmm. Ma se non so quanti attacchi faccio, come faccio a dirti chi attacco? Io posso dirti chi attacco e poi decido a chi... Quanti attacchi faccio a chi. Sì, quello sì, giusto. Eh sì, no, come faccio? Adesso. Sì, sì. Sei tu che mi dici quanti attacchi faccio. Quindi attacco beta e 3. Sì, che ha senso, perché tanto se colpisci, cioè, comunque colpire beta e poi puoi fare quelli che avanzano. Puoi distribuirli come vuoi. Esatto. È così. Ok, quindi ti dico chi attacco e poi lo fa... massimizzi tu, diciamo. Mm-hmm. Vai. Io colpisco beta e 3. Attacco beta e 3. Vai. Vediamo. 8 ancora, sempre. Che merda. Uguale. Uguale. 26. E stavolta 27 perché c'ho questo. Ah, giusto. Comunque, è uguale a prima. 4 quindi sono 4 più il mio key point. Il key point, va bene. Allora sono 5 attacchi. Attacchi. Bene. Aspetta, allora, vabbè, vai. Tira il primo. Tira un di 8 alla volta. 10, 2 più 12. Aspetta un attimo. 24. Sono... No, lui era già meno 20, adesso sono altri, ah, cioè, altri 20, aspetta allora. Sono altri 14. Esatto, vai, ok. Secondo sono altri 15. Meno 49. Meno 49. È ancora vivo, bastardo. Ancora vivo? Sì. Bastardo. Sì, l'ultimo è sicuro. Ok, è morto. Gli altri due su 3. Bravo. Quindi sono 12, 24, più 6, più 2, 4, 28. 28. Morto anche 3. Bravissimo. Ah, ma minchia, vabbè, cosa? Da Major Reduction. Niente, vai. fine. La Miss Chance, tu c'hai l'artificio. Stai facendo fuori tutti tu, perché Damasco non è neanche la pistola. Lui si muove. A chi tocca? Io tre l'ho scattato. Tocca a Damasco. Niente. Io arriverò. Ritarda l'azione. È lì che va così. Ritarda l'azione. Boh, quando lei arriva e fa cadere la tua pistola. Io faccio la musichetta. Prepara l'azione che ti avvicini a lei quando arriva. Sì, ecco. Che ti avvicini ai nemici quando arriva con la tua pistola. Va bene, quindi tocca a te. A me. Allora, posso agire prima io? Dove che sei? Ah, tutti. Qui è opportuno distribuire gli attacchi dei nemici. Vabbè che non sono più... Sì, sono un po' comunque. Dove sei, scusa? Allora uso Shadow Control. Vuole la metà strada al pennone. Sì, no, vola in mezzo comunque. Sì. Vedete una cosa che non avete mai visto prima. Cioè vedete... Che sei? Avram. Vabbè, probabilmente. Nel senso che Avram lo vedete lanciare un incantesimo di evocazione particolarmente rapido. Nel senso che faccio Shadow Conjuration, con cui posso emulare... Shadow Conjuration Greater, con cui posso emulare un incantesimo di Summon Monster, comunque qualsiasi incantesimo di Conjuration di livello 6 o inferiore, e ha il 60% di effettività. Quindi mostri che evoco... E perché non fai incantesimo? Perché ci vuole un round intero e compaiono alla fine del prossimo round, mentre io voglio che prendano attacchi. Ok. E quindi compaiono subito perché è una standard action, giusto? Sostanzialmente hanno il 60% dei PF, e poi se disbelivano, se la gente disbeliva, non prende danni. No, o prende il 60% dei danni. Prende il 60% dei danni dai loro attacchi. Ok? Semplice però. Mm-hmm. Faccio così. Evoco gli Asata Baralani, che sono gli unici che li possono attaccare. Ne evoco un... Allora, un Summon Monster 6, quindi ne evoco un D4 più 2. No, un D3 più 1. Perché si più uno della classe. Cioè quindi solo 2. Più 1 è per la tua abilità speciale. Sì. Sì, sì, per la mia abilità speciale. Soltanto 2. Vabbè, un po' sfigato. Che però compaiono. Questi sono tutti nemici? Sì. Sono in alto? Tutti contro Jung? Sì, sì, sono tutti sopra. Beh, i brani volano? Sì, sì, volano. Ne evoco uno qui. Vicino a loro sempre. All'altezza di Jung. Esatto. Quelli lì sono tutti in alto, quelli sono. Sì, sì. B1. Spostali magari in modo che potesse colpirlo. Tipo 2 non è davvero lì. 2 è a fianco a Jung. Aspetta, 2 è tipo qua. Ok. Lì. Quindi 2 è qua, diciamo. Sì. No, sì, no. Come no? Non ci siamo. No, questo qui è sbagliato, cioè dovrebbe essere qui. È vero, sì. Però vabbè. È vero. Fa niente. Va bene, sì, ok. Va bene, ok. B con uno. E l'altro lo metto qui. Sono allo stesso piano di altezza, sì, 7-1. Sì. Tu te la cavi da solo con 6, no? Io devo dire, sì. Ok, quindi B. Lo mangio. B2. E per ora... Ah, manca il 2 da disegnare. Ma sono tutti contro Jung? Sì. Ah, figo. Manca il 2 da disegnare. Perché prima c'era Damasco. Lui è andato al posto di Damasco e sono tutti. Disegnare il 2. Il 2, ah. C'era un 2, si è dimenticato. Ah, è vero, c'è. Doveva essere qui dove ho messo B, che scemo. Quindi 2. E B lo metto qua. Ok. B riesce a toccare Jung in mezzo ai nemici? Danilo? Mm? B riesce a colpire Jung in mezzo ai nemici? No, perché comunque sarebbe la... Cioè a toccarlo per fargli un incantesimo. Mettilo qua, no? Ma Jung è come se fosse qua. E comunque no. Che deve passare in mezzo a due nemici, non ci riesce. Ok. Vabbè, allora niente. Mettilo qua. È che voglio che possa essere attaccato, ma sì, anche lì... Ma tanto c'è Jung. Che cazzo ne testo che Jung? Ma sì, allora lo metto qua. Jung li sciotta questo. Sì, no, hai vero, ragione. Tocca a Jung, non ha neanche tantissimo senso. Va bene, allora... Jung si gira, fa un attacco e ammazza. Gli fa comunque blur su Jung, ok? Cosa blur? Cosa fa? Gli dà il 20% di miss chance, ok? Però non li faccio attaccare, perché sennò disbelivano le ombre, invece voglio che credano che siano vere. Mm-hmm. Chiaro? Cosa vuol dire disbelivano? Che scoprono che sono illusioni. Esatto. Ah. Mentre io voglio disbelivano. Che... Disbelivano. Cioè, se li faccio attaccare, loro prendono un tiro salvezza, giusto? Capito? Sì. Mentre per ora... Quindi le ombre capiscono che... E non sprecano attacchi su di loro, mentre la razza dei Bralani è proprio far sì che le ombre usino i loro attacchi su Bralani fatti d'ombra. Come sembra un Bralani? È una specie di angelo con l'arco, molto vestito alla greca. Ok. Un angelo con la tunica della guerra volazzante. Vabbè, inizia a fare... Non so se fargli fare Tu fai uccidere quante ombre c'ha? 3 attorno. 4, 5. Ce l'ha tutte lui. 4. 7 è un po' più lontano. 5. Anche 7 sarebbe vicino. Vabbè, inizia ad attaccare uno comunque. Mm-hmm. Se lo sono tutte lì non è che bisogna di trasportarsi. Figo. Ok, tiro ovviamente uno. No. Primo attacco di Jung, non va a segno con la katana. È vero, li ha falliti tutti. Bene, dai. Così è un po' più interessante. Magari glielo uccidono, no, magari glielo uccidono le ombre, ti immagini? Tirato uno, hai scoperto la bruttezza della rimozione degli attacchi iterativi e del fumble. Non la possiamo tagliare me. Vabbè, è andata così. Poverino, aspettava da quando è iniziata la sessione di usare Jung. No, da quando è iniziata la campagna. No, non è vero, però... Anzi, fa piacere che voi fate che deve combattere più voi. Primo attacco che fa di Jung. Vabbè. Però cioè, mi scoccia perché lì c'è questo capitano straforte, no? La cosa che fa tirare uno, cioè. Vabbè. È il caso di prendere un altro capitano. Jung, guarda, non ci siamo. Io! Sì, cosa però fa? Adesso la Sky. Qual è l'effetto di questo uno? Cosa vediamo? Lui che gli cade la spada. Ha detto tipo, no, visto che è una sfiga pazzesca, non so, viene colpito da un fulmine mentre la spada. Cioè... Dai, va bene. Esatto, solleva la spada, fa da parafulmine perché è la cosa più alta di tutti. Esatto, quindi niente, non riesce a colpire. Viene fulminato. E prende danni. Non prende danni del fulmine? Sì, prende 3 danni del fulmine. 3. Ok. Vabbè, c'è la impugnatura di gomma, va bene. Esatto, va bene, dai. Scherzo, non c'è nessun fulmine, forza. No, no, no, però c'è, dai, ci stava invece. Madonna mia. Mi piace il fulmine. Lo riabilita un po'. A chi tocca? Tu. A me, Eleni. No, io ho già dito. Eleni. Io arrivo finalmente. Dimension. Se ti trasporti su, tu fai la scuola preparata, arrivi da lei. Ok. Io non faccio tipo tipo non so, in effetti non hai visto dove si era messa lei, potresti tornare qua davvero dove non hai visto che c'erano ombre o lì dove eri. Vabbè, io mi sposto, da sposto okay. Anche me. Beh, insomma, lei era in mezzo alle ombre prima, sarebbe probabile che sì, mettiti tu no, lì no, ma dico sono giusti qua della sala, i compagni che erano rimasti lì, no? Sì. No, spostami vabbè, qui sarebbe uno in più, giusto? Ma sì, scusa, guarda, te lo faccio qui e via. E qui è un disastro. Cosa è successo? E vabbè, scusa. Uno schizzettino. Mamma mia, che lagnoso. Allora, a chi tocca? Quanta forza è? Vabbè, mi è proprio, cioè, mi è proprio partito. Ah, tocca le ombre. Così è caduto, che falliscono, quindi tocca a me. Esatto, tutte le ombre, non c'è il master che sta bevendo del latte, quindi tutte le ombre falliscono. Però guarda cosa è successo, sono una schifa sacra. Cosa è successo? No, infatti non si vede, tant'è Nina. Le macchie nera lì orribile, dici? Pennarello nero. Mamma mia. Allora? Direi che devi rifarla adesso. Sì, adesso la rifai anch'io tutta. Anch'io un po'. Passi, grazie, bene, anche io. Anch'io. Questo è il mio, no? Sì, sì. Allora, le ombre, vabbè, attaccano Jung, però aspetta. Anch'io. 2-4 perché siccome se no è troppo lento, sono solo da cani. Ma non attaccano i bralani? Cosa volete? Ah, è vero, c'è i bralani, allora niente. Ma poi sono lontane da me. Non attaccano da Damasco? Sono in alto. C'ho voglia di menare. Non so a quale distanza, in realtà. Lo sono tipo a... Non so, so. Vabbè, niente, allora attacca. Allora, 4. Non ce l'aveva neanche. Cioè, no, scusa, quello lì, 5, quello che è comunque. 5-1 attaccano i bralani. Disposto, no. Ma qual è l'intelligenza queste cose? 6, ok, sì, attaccano i bralani. 5-1 attaccano i bralani, bene. Vai. Neanche tiro per colpire. Un attimo. Tiro per mettere. Non è possibile che tirato uno Jung. Tanto c'è, cioè, anche se era 2 tipo colpiva, massacrava tutto ciò che era. Te l'ho detto, è tempo di pensare al nuovo capitano. Cioè, chi shotta tutti? Sì, infatti Jung ha perso un sacco di prestigio con questo. Io? Esatto. Facciamo capitano Damasco. Esatto. E lui su in piccionaia. Allora, poi attacca. Mi ha dato un pulviscolo nell'occhio. Minchia, Jung un intero sciame, cazzo. Esatto. Dai, attacca sti bralani. Ok, allora, bralani mancato. Quanto hai già? 16. No, scusa, 14. E anche no, l'altro colpisce. Bene. E si prende un danno alla forza. Ok, posso non segnare che hanno 20. No, vabbè, li segno. Che riduce il danno comunque. Ok, poi invece quale dei due? 1 e 5 hanno attaccato B. ha attaccato B1, sì, scusa. 7 attacca anche lui B2. Bene. E lo manca, no, 14 hai detto? Sì. Allora colpisce, sì, mm-hmm. Esatto. Ok. 4 danni alla forza invece. Mazzo! Quanto hanno rotto? Mentre 2 e 4 attaccano Jung. Mm-hmm. Manca miseramente. Ho tirato un altro 20. Conferma! Conferma! No, come fai a confermare? Tirato 2 20 di fila? Tipo, no, tirato 20. Io l'ho fatto. Damasco l'ha fatto. Ha confermato? Damasco l'ha fatto. E gli fa 2 danni alla forza. Mm. Ciccino. Lunghino. Adesso che è debole. Uccidiamolo! Ok. Tu non puoi. Dopo le ombre, tocca. Jung che arma usa? Una spada? Una katana. Toccava Eleni, pare. Toccava? Sì. Mm-hmm. No, toccava... Ah, toccava prima. No, toccava prima, infatti è già dito. Sì. Si è tornata su. Mm-hmm. Quindi toccava Khan. Khan. Ma tu mica sei a favore di Jung. Sì, infatti sto scherzando. Ah, ok, non puoi. No, no, io non lo... Oh, allora, scusa, se io ti dico attacco... 6, 2, 4, 5. Certo, vuoi dire colpisco tutte le ombre anche, volendo. Sì, tanto non stessi c'è. È la stessa cosa, io ti dico fin quanti riesci a uccidermi. Infatti, allora faccio così. Vai. Come è normalmente con gli attacchi iterativi del resto. Cioè tu vedi fin quando quello non muore, poi si sposta sull'altro. Vai, tiro per colpire, stavolta non fare 8. Adesso fa 1. 12. Magari ci scappa un attacchetto in più. 12 più 18. Aspetta, il fatto è che no, sono... C'ho un adesso sta colpendo quelle più piccole. 12, 18, 31. Ah, è vero. 31 in totale. E infatti come facciamo? Scusa, se io prima ti dicevo... E contro la CA più alta. Contro la CA più alta. Ah, ok. E si vede il numero di attacchi. Esatto. Però se ti dico... È vantaggioso, certo, ma come tutto il sistema è più sbagliato. E ci sta. Però se ti dico attacco solo quelli con la CA più bassa, si conta. Ok. Sì, esatto. Quindi faccio 31 in totale. Ok. Più haste, chiaramente. Scusa, più mi dai... Ah, prima no, ho fatto l'attacco di Ace. Che sarebbero due... Stupido. Cioè... Dai, prima non è anche contato l'attacco di Ace. Vabbè. Allora, facciamo che il key point era l'attacco di Ace. Non lo so. Tre, non è stato il key point. Poi tu ne hai... E allora non hai il key point. Prima no, perché non ho contato l'attacco di Ace. Sì, sì. Ora lo uso. Adesso usi key point Ace. Quindi sarebbero tre, però col primo se ne sono due. Più key point Ace. Poi sul secondo ce n'è un altro. Ah no, poi sul primo ce n'è... 3 più 2, 5. 7. 7. Più? E sul terzo ce l'ha già. Quanti attacchi sarebbero? Non sono 7 già i tuoi, no? I miei sono 5 più key point 6. Quindi 6. Quindi 6. Perché? Ecco. No, quindi 7, basta, sei arrivato al massimo. 7. Sì, li ho fatti tutti. Fatti tutti gli attacchi, 7 attacchi. Quindi tantissimi danni da distribuire, come... Lasciate che i pargoli vengano a me. Le ombre vengano a me. Il primo se ne piglia 15. Che è 3, che è 6 immagino il primo. Sì, sì, sì, 15 più 18, 33. Molto. Bravo. Due attacchi. Il secondo è 2. E se ne piglia 3, che sono 15 più... Sempre 18. Si è arrivato anche lui. Sì, morto anche lui. Sono 4. Altri 3. Hai fatto 4 attacchi per ora, sì. Altri 3. 4. Sì, ok, vai. 7 più 12, 19. Ancora questo figlio di puttana. No, è morto. Buono. Altri 2 attacchi. Ha fatto il lavoro di Jung, Khan, si candida. Altri 2 attacchi e su 5. No, 5 non lo vedevo, su 7. 6 mm-hmm. più 12, 18 è morto. Con un danno. Start. Un piede. No, pigliati sto cazzo di danno. Overkill, 15 danni per fargliene uno. Vabbè. E così è andato. Ok, quindi cancella tutti tranne grande 5. E uno. Mamma che carneficina. Li ho shottati tutti qua. Bravo. C'è stata della morte. Ok. Tocca a Damasco. Della morte. Oh! Che prende. Dai, Damasco. Sei utile. E si però sposta. Dai, non vedi nessuno. No, mi sposto di puoi fare un attacco solo, quindi. No, scusa, se mi sposto di un metro e mezzo vedo uno. Eh no, perché in alto è sopra il coso lì. Non sono andato lontano questa volta a vedere le cose. Il trespolo. Il trespolo. E io mi sono per la schiena. Quella macchietta nera. Dove mi devo spostare per vedere il trespolo? Cioè per vedere chi c'è sopra il trespolo? e devi volare in alto. Vuoi, ma lei non ha il... appunto, ma infatti puoi colpire 5, però ti devi spostare di tanto. Un attacco solo. Ah, tra l'altro avevo ancora più 8, anzi avevo più 16, la Sky più 16 a, alle, a, Damasco alle, a jumping. Vediamo. Strappa la Sky Pistol via dalle mani di Eleni e corre per avere la visuale. Quanto devo si butta in sospensione, spara un unico solo colpo e ora fallisce. E vediamo. No. E cosa, beh, io faccio quel che voglio. Minchia. 18 più 18. Però non devi tirare di 6. Tiro questo? Non devi tirare di 6. Che sono immuni a precisione. Quindi fare quello senza, quello con meno 11. Era 11 io? Ma no, uccidi. L'hai considerato che prendono... Quanti che ho usato? Uno. A metà di danza. Mi dai la matita fuori. Okay. Ho usato un key point. 21. Dove sono? Dove sono? Dove sono? Dove sono? Ok, 21. Bravo. 21. Ho capito, muore. È qui. E basta. Fine. Sì. Ah, mi arrampico sul trespolo. Quindi è morto? Sì. Quindi hai fatto questa cosa, hai strappato la mano al corso, spari e pum, la sciotti. Tipo, baby. Esatto. Vabbè, un minuto l'idiota. È lì in tensione che fuma. Colpito dal fulmine. E io allora dopo mi arrampico, cazzo qua. Vabbè, no, ci sono i bralani. devi avere un mythic tire. E ora? Io lo do. Ecco. E ora tocca a Jung. No, sì, tocca a Jung e... che si e mangia Abraham. Che si mangia uno. Si mangia la katana per aver sbagliato. Abraham non fa niente. Capitano, a te l'onore. Visto che per ora non ne hai avuti degli altri. dai. Colpito. Anche 15. È anche minaccia di critico se fosse papabile di critico. Non possono, sono immuni? Sono immuni critici? Stiamo su di, sono immuni critici. Sono incorpori, incorpori sono. Non puoi fare il critico. Davvero. Sono immuni a precision damage. E sono gli immuni. I critici non sono precision damage. Fa vedere questo. Spiegare che sono gli immuni in italiano, ma... Vabbè, direi che la uccide visto che ha fatto 1000 attacchi. Implode. Riversa la sua collera, anzi, aveva soltanto incanalato il fulmine per poterlo. Please. Ok, muore. Bene. Un attacco notturno. Sembrano abbastanza sveglie, hanno sfruttato l'oscurità. Ma la pistola solo istinto. Non mi sembrava un esperto del combattimento. La Sky Pistol, per favore, tienila. Quanti erano le durata? Meno di 10, sì. Ma sì, meno 3. No, perché so che non mi sono dedicato di tenere il conto per vedere se scattava il campo antimagia. Esattamente 3. 3 round. Esattamente 3. Io ho attaccato 2 volte. No, 3 volte. Sì, sì, 3 round. Più quello per cui si era tutto qua. Gli Akana ha veramente distrutto questo. Esatto. Complimenti, Akana. Il tuo supporto è stato encomiabile. È vero. Non è stato difficile. Aia, frecciatino. Come hai visto, purtroppo sono stato svantaggiato dagli dèi. Neppure tu puoi controllare i fulmini, capitano. Nemmeno gli uno sul dado. No, infatti. Che è lo stesso, capitano. Allora induciamo le elezioni. Fermi. Comunque, non... l'autorità del capitano non è in discussione qui. Comunque direi che dopo quello che è successo alla prigione non dobbiamo mettere... Esatto. Sono contento voce che... sulla sua autorità. Ce la farò. Io voto per te. Capitano Kayshak, sono molto fiero del fatto che il nostro Baka è rimasto a tutelare la Zeratite. Infatti, non mi aspettavo una cotanta disciplina. Molto bravo. Bene. Qualcuno di voi è gravemente ferito? No. Sì. Forse Baka potrebbe essere a conoscenza di questo attacco, visto che... Beh, qualcuno ha preso... Non ha che senso, Baka potrebbe essere... Poteva saperlo. Perché? Perché non è venuto fuori a combattere con noi. È stato giustamente a difendere la Zeratite, come era suo compito, visto esatto. Che l'altra volta è stata sottratta in un momento di attacco. Ma se posso permettere, magari non si è neanche accorto. No, d'altronde vedete in giro Corinne, esatto. Corinne è l'indiziata, numero uno, per via del suo passato con... Corinne, perché non sei venuta ad aiutarci? È vero, dov'è Corinne? Corinne! Corinne! Se la chiamate, arriva sul ponte. Cosa c'è? Ben svegliata! Ho sentito i rumori della battaglia, ma visto che a quanto pare la mia incolumità era di così vitale importanza per il nostro capitano e per la ciurma, ho deciso di non rischiare la mia vita. Mm. Molto, molto furba. Comoda. E furba. Va bene. Non importa, comunque sia, nessuno di noi è ferito con cure che tu puoi dispensare. Capitano, mi dia la bacchetta. Per me non è necessario. Sì che è necessario. Sto abbastanza bene. Non hai preso danni... Non ti senti per caso più debole? Queste ombre miravano alla forza che scorre nei tuoi muscoli direttamente, non semplicemente alla tua incolumità. Mi ha colpito solo un'ombra, ma è stato un danno abbastanza lieve. Se poi vuoi usare una bacchetta... Allora, sì. Alla fine la forza serve solo per i danni. Allora, non abbiamo forse bisogno di tutta la forza che abbiamo. Due danni a forza. Due giorni li hai recuperati. Oh. Forse sì, conviene allora risparmiare. Invece so che Eleni l'ho vista particolarmente debilitata. La gnoma è debilitata. Anzi, dice... Capitano? La Genasi è la gnoma particolarmente debilitata. Non preoccuparti della posso avere la bacchetta? Il mio voto sicuro. Non faccio neanche la prova perché sono 25 adesso. Use Magic Device con queste nuove regole. Ma scusa, ma allora a quante persone puoi curare la bacchetta? La bacchetta stimo che abbia ancora una capacità tipo 38, mi pare, 38 cariche, forse qualcosa di più. Comunque ce l'ho scritto. In ogni caso, vabbè, se ti avanzo, curami. Sì, ma meglio non sprecarlo in realtà. Ma poi c'è anche i veri negativi, com'è che si curavano? Come si ricorda? Restoration, no, non cura i livelli negativi. No. Se i livelli negativi permangono. Beh, in realtà non sappiamo, curami perché non sappiamo se potrebbe arrivare altro ombre da un momento all'altro. Questo è vero. Sì, sono d'accordo. Anch'io ho bisogno delle cure della bacchetta, Mastro Abram. Va bene. E comunque è probabile che dovremmo combattere di nuovo appena avremo notizie dei nostri amici. Sì, è possibile. La precedenza al capitano. Se mai ne avremo. La precedenza al capitano. Tra l'altro avremo modo di sapere la loro sconfitta per via delle visioni. Certo, quello è vero. Comunque aleggio sul trespolo, prendo la bacchetta dal capitano e dico grazie ai bralani che spariscono. Un pochino debilitati visto che non ho preso 4 danni alla forza. Ma non sono bralani, è vero, fino a 5 danni. Ah, è vero, che scemo. È vero, no, niente. Allora no, dico via. E li vedete sfumare in una nuvola di ombre. Per un momento avete paura, visto che avete affrontato delle ombre per questo tempo, ma vi rendete conto che è soltanto una particolare magia di Abraham. E non è particolarmente colpito, direi, visto quanto ne ha seccate. Sì, certo. Rimangio. No, infatti Khan non è particolarmente colpito, anzi, gli prendevano le mani quando ho visto il pranzo. E c'è un'altra ombra, ci uccido io. Curo il capitano con quante cariche? Un dado a 4. 4. Perfetto, perfetto. Bene, una carica. Scusa. Per ora me le segno qui. Okay. Wand. Allora, basta 2. Rest. Quindi 2. Non fare 2. Oh, oggi non sto facendo casini, eh. Sei bravo. Bravo, infatti. Una matita. Li segno che ce li ho qua. Penso una gomma. Ce l'avevo scritte qua. Con la gomma? Sì, ma è il numero di cariche. È dietro quella fredda. Okay. Ce li ho da un'altra parte. Allora, mi dai gomma? La gomma? Dietro la matita. Ah. Curo, indirizzo le mie cure verso Eleni e faccio un 3, preciso. Oggi sono preciso. Grazie. Quelle che mi mancavano. Damasco, sei ferita? No. Bene. Hai usato 3 cariche. Sì, esatto. Dammi la matita. Cioè, invece per gli altri danni negativi cosa devo fare? Ho sempre meno 2. Meno 2 ti ho per colpire, ti salvezza in teoria anche certi due slot incantesimi. Ah, è vero! Cioè, perderesti esatto. 2 incantesimi per ogni livello di incantesimo. Esatto. Madonna, è veramente letale. Non lo sapevo, però scusami. Non ha niente. Ah, figurati. Però adesso dobbiamo curarli. Scoprite come si fa intanto che... Come si... Ok, potete dormire se volete, comunque qualcuno resterà di guardia, immagino. Sì, la sera era cancellare, per scrivere a termine dei vostri compiti per la giornata, diciamo. Stavate per coricarvi. Ok. Vieni qua a parlare. Sì, scusa. Io sto lavando i piatti. Sì, esatto. Stai lavando i piatti. Ha detto che stai cucinando, amico. Sì, ero in cucina, non avevo detto cosa stavo facendo. Va bene. Potrebbe essere sì, esatto, mangiare. Sì, sì. Baka, e chi di voi resta solo a fare la guardia? Io sto sulla piccionaia. Posso... Ok. Bac e Damasco restano svegli. Baca a sorvegliare la Sratite. Chiamatevi se vedete ancora quegli spettri. Non è... Come avete visto, per me non è stato un problema. La serie Capitano. Poche vanterie. Una serie di sfortune può capitare anche al migliore dei guerrieri. E Damasco restano svegli per osservare. Chi? Comunque, Damasco. Bac e Damasco. Bacca resta solo via la Sratite, Damasco resta su Pennone. La notte sembra trascorrere tranquilla e la mattina ognuno di voi si accinge a compiere i propri doveri. Non avete sogni, non avete avuto sogni particolari. Tuttavia, a metà della giornata, quando sono passate più o meno... Vediamo la vita di uno dei nostri compagni. 20 ore da quando i vostri compagni sono partiti. 20 ore. Partiti. Il terreno sotto i vostri piedi scivola lontanamente dall'oscurità, come è sempre morto. Avvenuto quando è morto uno di voi. No, di nuovo? Chi è? Le immagini questa volta mostrano un giovane nano che nasce nelle quante braccia? Che nasce nelle baraccopoli ai margini di una delle grandi città dell'impero. Qui lui vive insieme a una famiglia, diciamo, molto allargata di nani, che però ha sempre avuto le mani un po' impastate nel crimine. Le mani in più. Le mani in più, vabbè. È quello contro il braccio? Crescendo, la sua abilità nel colpire con l'ascia diventa sempre... colpire con l'ascia diventa sempre maggiore. Uno dei riesce a scalare con la violenza e con l'inganno i ranghi di un clan particolarmente... particolarmente sanguinario di nani delinquenti, diciamo. Insieme a lui vi è suo fratello, che è un nano invece anche lui molto, diciamo, cultivo e abile però lui deve destreggiare le balestre e ha anche avuto un trascorso alchemico, quindi suo fratello è quello con tre braccia, quindi quello morto è l'altro. Esatto. Vabbè. Come Uff, meglio che via, se avevo quattro con tre braccia, di divertente. Certo. Sì, infatti. Uff, nel senso di Uff, ok. Tuttavia la sua sete di potere l'hanno lentamente portato a compiere azioni sconsiderate, finché non è giunto, diciamo, a condannare il suo clan a essere catturato, tra cui lui e suo fratello. Ah. Vedete anche la scena della sua morte, l'ultima scena impressa nella sua memoria, ovvero di come è morto. Perché, cioè, finora non ve l'ho mai raccontato perché era abbastanza superfluo. Certo. Però è una scena che comunque vedete sempre, perché è un evento forse l'evento più impresso nella vita dei morenti. No? Si trova nella città, nella città che avevate visto, è circondato da edifici, ma non solo. Insieme a lui vi sono centinaia e centinaia di ombre che hanno circondato lui e i suoi compagni. Tra queste ombre anche scheletri e non morti. Sembravano avere la situazione in mano di essere riusciti a scappare. Tuttavia, proprio in questo momento, è sopraggiunto il fantasma di Atral Ghul, seguito da altri. No! Ancora? Sì, Atral Ghul, non è ancora. E l'Aberton era quello di prima, no? Sì, Atral Ghul è giusto. Uscito, è vero. Atral Ghul, il drop. Gli accorti di sorpresa... E ha ucciso in particolare lui. Cappeggiava dei Wright? Sì, esatto. Tuttavia, mentre i suoi occhi si spegnevano, ha visto la fine di Atral Ghul, ucciso dalla stessa Drow che l'ha distrutto con una magia. Ah, bravo. Ma non sappiamo se gli altri sono scoperti. Non sapete se gli altri sono ancora vivi. Tornati alla... Però il fatto che non vediamo la morte degli altri ci conforta. Certo. Potrebbero essere riusciti a scappare. Mentre i suoi occhi si stanno chiudendo, delle figure ammantate di rosso con le loro spalle dei demoni sembrano circondare il gruppo. Ma non sapete altro. Figure ammantate di rosso? Scusa, ripeti? Con le spalle dei demoni. Alle spalle delle figure demoniche, cioè demoni e diavoli. Diaboliche. Mi sembra il caso di entrare in questa città. Molto, molto inquietante. Credete che dobbiamo andare a soccorrerli? Non credo proprio. Sembra troppo pericoloso. Capitano, diamo loro del tempo. Sembravano centinaia di ombre. Sembravano molte difficoltà. Le ombre, chiaramente in questo caso, non bisogna fare altro che evitarle. Un lutto va affrontato a testa bassa. No, infatti. Inoltre non abbiamo molta scelta, se non andare a cercare il modo per disattivare questo campo antimagia. Possiamo dare ai nostri compagni un po' di fiducia, visto che sappiamo che sono ancora vivi. La magia si è disattivata? In questo momento? No, in questo momento era attiva, chiaramente. No, sì, ma faccio light su... Ah, se qualcuno muore mentre la magia non è attiva, non vediamo la sua vita o lo vediamo dopo? Non lo sapete. Ok. Capitano, dobbiamo attendere allora. A parte che non possono morire mentre la magia non è attiva. Chi li colpisce? Perché ci sono altri esseri, ci sono scheletri e diavoli a quanto pare. La spada, per esempio. Sì, ma è tutta roba magica. Fa niente, i non morti vivono ancora nel campo di magia, a meno che non siano evocati. I non morti sopravvivono, ma semplicemente. Ma non posso attaccare? Ma solo queste ombre. Sono le ombre che hanno il corpore perché loro attacco solo soprannaturale. Ah, ok. Se non ti fanno un ghiaccio, ti fanno un ghiaccio. Esatto. Va bene, capitano. Allora aspettiamo. Aspettate tesi per il resto della giornata. Tuttavia, non giungono nuove notizie, né buone né cattive. Intanto la magia è sempre lo stesso. Sì, sempre lo stesso andamento identico. Andamento. La nave è ferma dove era prima. Vabbè, non avete neanche messo in moto, quindi no. Cioè, quindi sì, ferma dove era. Sì, sì. Ho capito. Bene. Dopo che sono trascorso. Cioè, non so cosa di qualcosa nel frattempo. No. Comunque continuo ad essere l'idea che è difficile entrare in questa città senza essere notati. Non conosciamo la città, non conosciamo chi vive nella città. Potremmo beneficiare dell'invisibilità. Mi domando perché Azalea non ci abbia pensato, o magari ci ha pensato. Sarebbe un'invisibilità intermittente in ogni caso. Ah, è vero, che sciocco. Ah, una cosa dovete saperla, il campo antimagia a proposito. Non distrugge gli incantesimi con cui entra in contatto, semplicemente li sopprime momentaneamente. Quindi, appunto, sì, l'invisibilità sarebbe di intermittenza. Non ci resta che aspettare. Potremmo fare una ricognizione all'ottimo corvo. Tu voli solo con la magia, vero? Chiaro, ci vado lì! Chiaro, ci vado! Almeno un giro sopra la città per vedere. Una mappa della città per avere un'idea di dove possono collocarsi gli edifici più importanti per noi, quantomeno. Che cosa ne dici, Sodoma? Non ci vado! L'altra volta gli insetti mi stavano per mangiare, io devo mangiare gli insetti nella natura futura così! Jung non ti sembra più saggio. Mandare il corvo? Mandare il corvo quantomeno a darci un'idea di come è fatta la città, che pericoli si possono incontrare a meno entrandoci. Io sento di accarezzare il corvo, ma non ci arrivo. Il corvo non sarebbe in pericolo, volerebbe molto in alto, ci darebbe solo informazioni. Non sarebbe in pericolo, è da verificarsi. Volerebbe in caso, molto sicuramente in... sì, sarebbe una buona tattica, ma forse una creatura evocata sarebbe ancora migliore. Riuscirebbe ad arrivare là in 2 minuti. Le creature evocate, una volta che entrano in contatto con il campo antimagia, vengono soppresse. E poi ritornano, quando il campo magia si esclude. Tuttavia non durano più di 2 minuti. Ah, questo può essere un problema. Te lo spiego. Ma tu vai a sentire Danilo. Non si sente niente, se no. Quanto ci vorrebbe a volare da qui fino a sopra la città? Quanto ci vuole a volare da dove siamo noi fino a sopra la città? Quanto ci vuole? Faccio un tiro? Ore. Volare. Camminare ci ha messo 3 ore. Vabbè, è un'ora. Anche per un corvo che vola a 50 all'ora. La Madonna, che cazzo di corvo è? Superman. È tanto 50 all'ora. No, non so che riuscite a volare un corvo, però secondo me vola almeno 50 all'ora. Ma che cazzo è, un proiettile? Una macchina. Appunto. In città, una macchina in città, motorina. No, non lo so, non credo. Non lo so. Comunque no, se vuoi essere un bestiale, se vuoi. Ma poi ci sono falchi che volano a 250 all'ora. Beh, comunque qui... Ah, veramente? Beh, picchiata magari senza volare, proprio... Fiondandosi. Sì, è quello, sì. Sì. Più vabbè, ma ci sono in caduta libera anche una pallina, no? Vola così veloce. Ho un corpo. Magari si svutta dei vuoti d'aria, cose così. Comunque, direi Sodoma. Attendiamo ancora un'ora. Se al termine di quest'ora non saranno sopraggiunti, manderò loro incontro Sodoma, che farà una ricognizione a qualche chilometro di altezza, ad un facciamo altrometro, chilometro, tanto. Quindi comunque che non 300 metri. Molto no, altezza, infatti, cioè. Infatti, no, è assurdo. 300 metri di altezza. Beh, è risaputo che c'è il genere, c'è un'ottima vista. No, vabbè, però tipo 300 metri. Ok, ma che cosa gli chiedi di osservare, cioè? E innanzitutto se vede loro. Soprattutto se vede loro. Li vedremmo uscire dalla città e venire verso di noi? Quello sì. Ah, li vedremmo. Quindi se non sono tornati... Ah, dici voi no, ma il corvo sì. Ok. Poi io fino a quanto vedo in lontananza? Se sono sopra il pennone lì... 3 ore di cammino è tanto. Ma quanto manca, capitano, prima che arrivi l'ora in cui aveva deciso di inviarci? In teoria è già passata. Allora, andiamo. Andiamo, non sono il tempo da aspettare soltanto perché erano ancora vivi. Ma in teoria sono d'accordo ad andare. Abbiamo visto la morte del nano. Però almeno sapere come vivi. Evitare queste creature. Quindi avere un'idea dove possono spostarsi, dove entrare nella città, dove andare nella città. Non possiamo entrare a caso nella città. Beh, perché no? Perché ci attaccherebbero di sicuro, esattamente come hanno attaccato i nostri amici. Ho capito, ma che... Saremmo in un attimo circondati a centinaia di... Ma quale vantaggio tattico potremmo avere da Sodoma? Uscite, entrate segrete così così, non le potrà vedere dall'alto. Magari riesce a trovare un edificio importante, riusciamo a capire che da quell'edificio che la magia si propaga. Infatti era questo. Che il campo antimagia si propaga. La cosa che pensavo è appunto questa, che Sodoma... Magari riesce a vedere un grande macchinario all'interno della città. Volando dall'alto potrebbe vedere quantomeno... Siamo anche un cartello, zitto, bisogna andare qui. Venite qui! Voi siete qui. Colpite qui! Per la morte. Esatto. Old, batte gold. Sodoma? Stento a mandare Sodoma in una missione di questo tipo. Allora potremmo semplicemente andare tutti. Infatti, cioè, nel senso, sono d'accordo. Aspettiamo e andiamo quando... Almeno noi potremmo proteggerci a vicenda, mentre Sodoma che cosa potrebbe fare? Sono d'accordo, non manderei mai il mio famiglio. Sì, ma il tuo famiglio è completamente inutile. Potremmo mandare il tuo famiglio? No! Sodoma... Se cosa non fa il tuo famiglio? Vola? Vola, sì. Tuo famiglio vola, il mio famiglio vola e fa fare a tutti un attacco in più a round. Il mio mi conforta, mi fa le coccoline. Devo ripetermi? Ti castiamo fly. Non me lo mando. Hai trovato l'inutile da il sacrificare sull'ara. Sapete che è un no. Pensa quanto sarebbe importante sapere questa cosa. Ecco, infatti. Vado io. No. Tu non voli se non c'è la magia. Ma neanche il famiglio vola. Possiamo semplicemente raggiungerli. Ma vero, anche mia famiglia volerebbe. Chissà questa... Plana. Così. Quello che potremmo fare è anche... Allora... In un momento in cui non c'è Jung, Danilo, mi rivolgo ai miei compagni più fidati, voi tre. Tre chi? Ah, voi tre. Loro tre. No. Ah, sì. Vabbè, Bacca sarà lì che è come uno scemo che guarda la sratite. Ragazzi, il nostro compagno sembra un po' fissato. Sì, sono contento che abbia preso così tanto sul serio la sua missione. Imparare un incantesimo richiede un'ora per livello, vero? Sì. Potremmo contattare il nostro comune amico e chiedergli di darci una pergamena di scrutare. Un incantesimo che permette di raggiungere... Deviun. No, il nostro comune amico. Cornuto comune amico. La coda. Alto 2 metri, rosso, aria insinuante, offre sempre patti. Cavolo. E crea calore. A nome che inizia per B e finisce per Laxar. Ilaxar. Lui. Potremmo contattarlo. L'unica cosa che mi turba e che mi frena è che non abbiamo detto a Jung del flauto. Beh, non mi sembra necessario che lo sappia. Esatto. Sì, farai a comparire un diavolo. Un diavolo che vola. Ma magari nella tua stanza. Nel momento in cui ci siamo richiamati, chiaramente bisogna dire. Infatti. Possiamo comparire nella tua stanza. C'è no, perché lui arriva volando. Cosa vorresti ottenere da Bilax? Una pergamena da cui possa imparare l'incantesimo scrutare, oppure lanciarlo istantaneamente per non perdere tempo, ancora meglio. in modo che possiamo localizzare i nostri amici, o vedere dove sono. Che desiderio spiega, scusa? Scrutare. In realtà non ti permette di localizzarli, ti permette solo di vedere cosa stanno facendo. E dove sono. E dove sono. Quella, cioè, dove c'è intorno a loro. L'apparizione di quegli esseri ammantati di rosso mi ha turbato. Ma che cos'era? Non abbiamo visto nulla? Allora, non se sembravano diavoli rossi. Fai delle prove? E se distressimo Jung e... Esatto. Avevano l'altezza quella di un umano. Di umano, un elfo, un Suli per caso? Oh, un Suli, certo, chiaramente. Avevano dei speciali vestiti? Sì, sì, erano ammattati di rosso, incappucciati. Beh, questo potrebbe darci un vantaggio tattico. Presente, quei tizi che accompagnano l'imperatore. Ah, vabbè, mantellone. Così, no? Ma anche un'armatura ingombrante? No, senza armatura erano loro. Va bene. E se rinchiudiamo Yunk e Shek? Vabbè, allora non mi sembra. Allora sull'Arsi di nuovo. Non mi sembra, scusa. Se Bilaxa ci aiuta solo in questo modo, Yunk può anche non essere. No, il mio turbamento si riferisce al fatto che non abbiamo detto a Yunk che Bilaxa ci ha dato un flauto e gliel'abbiamo tenuto nascosto. Va bene, non deve saperlo. Non è necessario che lo sappia. Ma come può non saperlo se Bilaxar arriva a 200 km orari e sfonda parte della nave nell'atterrare? Beh, no, non penso faccia così. Potremmo scendere. È un tipo che richiede molta attenzione. Ma tipo non si teletrasporta nella nave? No. Potremmo scendere dalla nave ma non arrivare proprio in prossimità della città. Io credo che sia inevitabile. Yung dov'è? Nella sua cabina? Se vogliamo utilizzare il flauto... Andiamo a poppa. No, ragazzi, io propongo di affrontare il tema con il capitano. Come proponete di fare? Baka! Anzi, andiamo a chiamare Baka, che è quello che sa parlare meglio di tutti noi. Che cosa sto dicendo? Però è vero. Perché sono a 23 influencer, ma non mi spiego perché. Va bene, allora andiamo a parlare con Yung. Baka, parlare tu. Baka, ecco, andiamo da Baka. Baka, io fa. È il caso che... Riferiamo al capitano che noi gli abbiamo detto del flauto. Avevamo timore che lo requisisse. Secondo me, io diciamo e basta. Poi sì, Baka, apprezzo l'essere diretti, tuttavia il capitano potrebbe non essere così condiscendente. Allora, io non è che sono un tipo molto diplomatico, come avete capito. Io sono uno che, cioè, o ti picchia con la sua... Sì. Oppure? Aspetta, l'altra non riesco a immaginarla. No, adesso... Cos'è che usa lui? Cosa usa il kunai? No, non usa il kunai, dai, usa un falchion. Ok, che picchia la gente con questo falchion. Oppure li intimidisce perché potrebbe picchiarli con questo falchion. Ah, ho capito. Tuttavia hai manifestato anche una certa capacità... Oratoria. Sì, per incitare i tuoi... Così non è proprio, cioè... No, non sono un tipo mitico, sono uno abbastanza diretto. Beh, è quello che vogliamo. Il capitano militare apprezzerà una favella diretta, qualcuno che gli parli in modo chiaro. Capitano, abbiamo un flauto. Capitano, abbiamo un flauto di vetro che l'abbiamo tenuto nascosto e che può evocare un diavolo potentissimo che ci mette a disposizione tutti gli oggetti magici dell'universo. Esatto. Perché non ce l'hai detto? Ecco, questa è la domanda che temo. Vabbè, non importa. Mi sembra che alla luce dei fatti... Potremmo dire che ce l'hai un po'. Facciamo così. Potremmo dire, l'argomento potrebbe essere questo. Capitano, noi ci dimentichiamo dell'uno che ha tirato prima e lei si dimentica del flauto. Questa è una grande idea. Anche se notavo già per me, per le elezioni del nuovo capitano. Che tra l'altro Baka, meno male che non ha visto la scena, se no... Esatto. Anzi, tra l'altro adesso gliel'hai detto. Baka, fa come se non ti avessi detto nulla. Mi raccomando, il capitano... Porterà per sempre. Perché, anzi, era proprio quello il più insubordinato. Esatto. Va bene, facciamo così. Affrontiamo la tematica con il capitano Yung. Ma se alla domanda perché non rispondessimo che ci è stato impedito? Di mentire. Potrebbe scoprire che si sta mentendo. Consiglio di essere diretti e di non mentire. Sì, già gli abbiamo detto. Dirgli semplicemente la verità. Che lo ritenevamo utile e non volevamo che ce lo sequestrasse come ha fatto con la bacchetta. E che è stato un atto di insubordinazione di cui pagheremo il fio se lo riterrà opportuno. Beh, no. Questo è quello che mi riguarda. Sì, sono d'accordo. Il fio, queste parole. Esatto, il fio della mignotta. Andiamo. E andiamo a bussare da Yung. Toc, toc, toc. Tutti insieme. Sì. e spingiamo basta. Come la coda tra le gambe, la coda tra così le gambe, la bacchetta, la bacchettina, il flautino. E senti, capitano, gli dobbiamo dire una cosa. Beh, cos'è questo piagnisteo? Baca. Baca. Non parlo da solo, scusate. No, vabbè. Va bene, allora, capitano, abbiamo pensato che potremmo avere un vantaggio tattico e capire esattamente in che situazione sono i nostri compagni. Eccellente, come? Utilizzando un incantesimo, attraverso una pergamena che non abbiamo. E allora mi sembra un po' inutile quanto stai dicendo. Sì, infatti, è un vero problema. Tuttavia, vede, i problemi si propongono e le soluzioni sono sempre a portata di mano in realtà. E le persone si scordano di averle a portata di mano e invece ce le hanno a portata di mano. Quindi, per esempio, noi abbiamo questo flauto che ci consente di evocare un diavolo, che ci mette a disposizione tutta una quantità di equipaggiamenti magici e oggetti magici di vario genere e foggia, e possiamo scambiarli con i nostri oggetti magici. E adesso mi è venuto in mente che potremmo fare questa cosa. Devo fare una prova. Abbiamo parlato che ci volete evocare un diavolo. Devo fare una prova di influence con Baca. Con Baca, sì. Ha parlato Baca? No? Stava parlando Baca? No, stava parlando Abra. Ha parlato io. Ah. Lui ha detto, ma adesso ho parlato io. Io sono meno uno influencer. Ma come, non abbiamo fatto parlare Baca? Cosa abbiamo fatto? 13. Malissimo. Leggermente sopra la media. Ci manda a fare in culo. Vabbè, Baca adesso giusto. Io l'ho detto di far parlare Baca, ma Daniele. Baca giusto al tiro. Io solo posso votare in culo. Avevo capito che stavi volando Baca. No, Baca non avrebbe mai parlato così. Vabbè, perché non è che ho parlato così tanto bene. Comunque, dai, anzi, ho parlato, cioè, come uno che somma meno uno a influence, mi sembra, no? Sì, infatti. Baca avrebbe parlato tipo, perché nei momenti di difficoltà escono le soluzioni dal culo dei nemici che bastoni. E noi abbiamo bastonato questo nemico, dal cui culo è uscito un flauto. Ecco, diciamo che Baca fa questa piccola... Ecco, lui rinforza la mia... Esatto. E mi dà un più due. Facendo un bel po' 30. E non credete che questa notizia sarebbe dovuta essere stata data? Avrebbe dovuto essere data? Avrebbe dovuto essere data prima? No. Sarebbe dovuto. Sarebbe dovuto, vabbè. Avrebbe dovuto essere data. Sarebbe. Vabbè, non avreste dovuto dirlo prima? Sì, sicuramente, capitano, è che... Beh, ma è stato donato a noi come... Come Pegno. Gruppo? Un oggetto così importante doveva essere noto a tutto l'equipaggio. Ha ragione, capitano. Ci scusiamo per questo, non ce n'è stata... Cioè, bisogna dire una cosa a nostra discolpa, che non abbiamo di fatto messo in pericolo l'equipaggio, perché nel momento in cui se ne fosse presentata l'occasione e la necessità, gliel'avremmo detto come stiamo facendo adesso. Quindi in realtà, diciamo che non è stato... Nessuno ne ha fatto le spese, questo. Sì. A nostra discolpa. Questo è vero. Pagheremo il fio... Siamo in una situazione critica, nessun fio, se è questo che ti preoccupa. Mm-hmm. Tuttavia la fiducia che ho nel vostro gruppo, che sicuramente l'abbiamo sospettato, sicuramente si è incrinata. Immaginavo. Anche la nostra fiducia come capitano, visto il menù. Io non l'avrei citato in questo momento, però... Ce ne rammarichiamo, tuttavia dobbiamo agire in fretta. Sì, sono d'accordo, penserò poi alle possibili conseguenze, se mai dovrò decidere che ci sono. Va bene. Chi è il più bravo di noi a suonare il flauto? Che cosa suona? E fa tipo un segno di... E... cosa di sconcio. E cosa bisogna... Beh, non credo che ci si debba fare niente di particolare. Dai, provo io. Quattro round. Ok. Dopo una ventina di minuti, no, di più, già queste qua in settimane, e io ci metto un po' a arrivare comunque. Cioè, ma sto diavolo super iper mega non si teletrasporta? Non c'è il teletrasporto in questa dimensione. Vabbè, non c'è una dimension door? Cos'è non che... ha niente. Ma vale soltanto per un potrebbe fattore. Avere... non lo so. Beh, potrebbe essere veramente super mega iper uber veloce. con degli incantesimi che lo morfizzano. 20 minuti spostano. Gli danno delle ali tipo di... I diavoli non si possono teletrasportare, perdono un po' del loro pathos, però... Sì. No, secondo me può avere questo incantesimo che si è inventato lui, che ha creato, perché è un grandissimo mago, che rende le sue ali enormi, lunghe tipo diverse centinaia di metri, e con una sola falcata fa come Merlino nella spada della roccia, no? Gli viene sotto, gli viene tipo un piccolo razzetto e fa oh no Lulu e parte. No. Dai, meglio le ali morfizzate. Sì, anche secondo me. Ma perché? Quindi vediamo questa striscia. Sarebbe comunque un giorno. Poi c'è adesso due settimane qua con la nave a pieno regime. Beh, ma sono delle super mega ali. Dai, finzione scenica! No, non ci avete pensato, basta. Ma come non ci abbiamo pensato? Ci metteva tanto a arrivare. Vabbè, aspettiamo un giorno. Ho capito, ma così ed è potenziata questa cosa del mercante. Certo, infatti ho fatto nei momenti di paura, perché è pensato per essere fatto nei momenti di morta, non nei momenti siamo assediati, rischiamo tutti di morire, prendiamo l'incantesimo che ci risolve la situazione. Non siamo assediati. Stiamo aspettando che quelli tornino decidendo cosa fare. Però ormai l'ho chiamato? Oppure ci ho pensato prima? Cioè, se vuoi proprio averci pensato prima. E quindi posso non aver detto niente a Jung? Vabbè, dai, ormai gliel'abbiamo detto. Secondo me l'hai chiamato. Ma chiamiamolo a sto punto. Chiamiamolo. Aspettiamo un giorno, qual è il problema? Che siete qua un giorno, avrete attaccati a mille altre ombre e quelli rischiano di morire o comunque voi rischiate di morire. Ok, mentre sto per suonare il flauto, faccio due calcoli, mi rendo conto che arriverebbe... La Bilaxar impiegherebbe almeno un giorno per arrivare con le sue grandi ali morfizzate. Ammesso che ce le abbia, cioè. Che ha, perché sono fighe. No. E quindi dovremmo fare a meno di lui e delle sue grandi ali morfizzate. E allora perché l'abbiamo detto a Jung? È stato effettivamente abbastanza scemo, ma almeno ci siamo tolti questo pensiero e questo peso. No. Ma quindi poi non potrà essere molto più utile questo nostro amico, visto che abita così lontano da noi. Lo chiameremo per rifornirci di oggetti magici quando ne avremo bisogno. Adesso agiamo, basta, mi sono stufato. Scendiamo dalla nave e andiamo verso la città e affrontiamo quello che dobbiamo affrontare. Non possiamo lasciare i nostri amici a morire. No, i nostri amici, no, scherzavo, scusate, ritiro tutto. Non possiamo lasciare i nostri sacchi di IPF a morire, no, però non è anche così. Non possiamo lasciarli perché dalla loro vita dipende il successo della nostra missione. Ecco. Semplicemente. Perché da soli non ce la faremo mai. Mi sembra che... Non tanto per quello, ma perché devo disattivare sto cazzo di congegno. Giusto, che scemo, è vero. Allora per quello. Mi sembra che disattivare questo congegno sia fondamentale per far ripartire la barca. Loro evidentemente non ne sono in grado, quindi... Va data priorità assoluta, non vedo perché Jung non debba venire con noi. La nave non può restare da sola. La nave da sola non servirebbe a niente senza... Abbiamo comunque la sorella. Vogliamo ricordare le parole di Ari? Forse tu non hai nessuno a cui tieni, ma se questa nave dovesse venire distrutta, tutte le nostre persone care morirebbero. E cosa fa? Resta lui solo con la... Sì, questa è l'idea, che è quella che era prima. Ok, ma se noi dovessimo fallire, andrà il capitano da solo. In quel caso l'unica opzione sarà rischiare e andrà io da solo. Ma è proprio l'ultima opzione che preferisco evitare, a tutti i costi. Oh, perché ci avete preso? Noi siamo dei fighi, andiamo. Ma esatto. Riusciresti a governare la barca tu da solo? Sono d'accordo con Damasco. Sì, la barca è governabile anche da due persone. Non è grandissima. Ci si mette molto più tempo. Ovviamente il viaggio è molto più pericoloso, ma cioè, se muoiono tutti i tuoi compagni cosa può fare? Certo, nulla. Anche perché non avrebbe i nostri corpi per riportarci in vita. Vabbè, magari lui poi riesce a arrivare lì. Giusto, vero. Ma noi abbiamo un unguento, portiamocelo dietro. Poi lo lasciamo a lui. Sì. L'auto lo lasciate a lui? No. Portalo dietro. Possiamo anche lasciarlo a lui, tanto Bilaxar non potrebbe esserci d'aiuto. Lasciamolo qui. È una buona idea, così lo può comprare volendo unguenti e salvarli. Esatto. Che non immagino non accadrà, però sarebbe la cosa più logica da fare. Sì, infatti. Allora andiamo, prendete le vostre cose. Mi raccomando, Damasco, tieniti stretta la tua +1 Sky Pistol. Più 5 la vendiamo, ci facciamo l'equip nuovo. Esatto. Più 5 è la più la vendiamo. No, non è quella. Vediamo la Babbi tutta la vita. Esatto. Nella mia padrone. Vediamo la missione. No, infatti non esiste. Vediamo la missione e basta. In pratica, il modello è quello lì della Infinite Sky, no? Però Il fatto è che quella lì è fatta, cioè nel senso, un'arma particolare più 5. Ho calcolato che l'incantamento che dà quella abilità lì, che c'ha infiniti colpi, quella roba lì è un più 1 per il costo che ha per quell'arma particolare lì. 73.300 GP. Esatto. Cioè, il fatto è che è il costo di un'arma più 5. Perfetto. 73.000, quella più 5. Sì, esatto. Sì. Più 5 è infinito. Infinita munizione. Ha calcolato che è come da aggiungere un più 1, quindi la tua è più 1. E tu come fai ad avere 73.000? Scelto. Non ce l'ho, infatti. Dai, andiamo. Sbotto. Scendiamo e partiamo, se per voi non ci sono obiezioni. Andiamo fine denti, se io riusciamo a trovare... Cose... Ma... Quello che volevo da dire l'ho già detto, ma chiaramente seguirò gli ordini di Yuna. Ma quindi aspetta, fammi capire, Canna, tu non sei d'accordo? Mi sono distratto un attimo. Io sono d'accordo, ma preferivo sapere dove andare, quantomeno. Ah, di mandare Sodoma? Dove avere andare? Avere un'idea di che direzione prendere per non finire in pasto a 100 ombre. Tranquillo. Scusate, siamo terrorizzati a queste 100 ombre per gente che ne ha appena Ma non lo so, secondo te che vantaggio potremmo avere? Trovare un vicolo particolarmente. Capire che il nostro edificio che stiamo cercando, se è veramente un edificio o il posto. Ti aspetti di trovare cercando... forse un cartello? No, però. Stiracchi la schiena. Però, come hai detto. Serve tanto potere per creare un campo del genere. Intanto cominciamo a camminare, però. Sì, andiamo. Sì, intanto che diciamo sempre. Sì, è vero, però non mi sento di mettere a rischio Sodoma e la possibilità di fare un attacco in più a round ciascuno per localizzare un edificio che probabilmente neanche esiste. Perché tu non puoi farlo. Sì, però devo usare un'azione standard, cosa a cui non sono più abituato. Dai, arriviamo. A questa città, ovviamente lancio su di me invisibilità quando siamo vicini alla città. Sì, però io non potrei mandare la mia Rain per guardare, no? Perché lei non so se. Certo che puoi. Chi è lei? Ma non vola di Ma che animale è? Plana, è uno scoiattolo. Uno scoiattolo membranoso. Allora vola? Plana. Volevo spiegarti la differenza tra volare e planare. Se vuoi il mio corvo può portarlo in alto e lui può planare sulla città. Solo che dovremmo andarlo a prendere dall'altra parte. Rain potrebbe morderlo. Non mi sembra molto utile, dovrebbe ritornare vivo da noi per spiegarci. Cosa assolutamente improbabile. Con il panic mind link può vedere quello che vede il buio. No, non e quindi lascia lanciarlo come suicida. Esatto. E tu vedi quello che vede. In realtà sente tipo l'emozione, una roba un po' più particolare. Ah, solo l'emozione, vabbè, dai, sì, è un po' lega empatico. Dai, allora cosa succede, Danilo? Ci avviciniamo. Niente, sì. La città è circondata da mura, ma ovviamente voi siete avvicinati. Minchia, si sente dal coso, ma proprio i coglioni. Madonna. Chissà i nostri nemici, come i nostri amici. Sei come hanno fatto entrare? Ho capito, non tutti diciamo come te che hanno la schiena straprensile, quello che vuoi. Ma noi ci siamo avvicinati. Si sono dei contorsi, rischio di stare sto puff per 2 ore e mi viene mal di schiena. Poverino. Allora? Noi ci siamo avvicinati dalla stessa parte in cui sono avvicinati i nostri amici. Per quello che ne sappiamo, siamo andati nella stessa direzione. Sì, siete andati in linea retta dalla nave alla. Ah, beh, sì, cioè la città. Quello, la prima cosa che notate è che vicino alla città non sembra esservi né un lago né è giorno, fiume, giusto? Né una roba di questo tipo. Né un lago né un fiume. Quindi è abbastanza tipico per una città nel deserto. Certo. Sorgere in mezzo al nulla. No? Potrebbe essere dentro, però. Tuttavia, vicino alla. No, aspetta, tuttavia, vicino alla. Dove state avvicinando, notate che c'è un'area solcata. Cioè un'area di terreno diciamo scavata dove evidentemente un tempo scorreva effettivamente un fiume che però ora sembra essere morto. Ho capito. La città potrebbe essersi dissolta dopo l'essiccamento del fiume. È probabile, possibile. In ogni caso giungete attraverso quella che sembrava essere una vecchia strada davanti all'entrata, alle mura, al portone principale. Chiuso. Che no, è aperto e la sua città è circondata chiaramente da mura comunque. Quanto è grande, cioè è gigante la città? No, è il portone. Ah, il portone, no, il portone è molto grande. La città, dico, la città è, ve l'ho detto già la volta scorsa, è molto grande, probabilmente una delle città principali della, cioè capiamo che ci vorrebbe tipo un giorno a fare il giro della città a piedi. Sì, vabbè. Ci utilizzo Light per sapere se la magia funziona in questo momento. Va bene, funziona. Ok. Direi ci potresti sempre tenere aggiornati su sul funzionamento, sì, funzionamento. Ma guarda, è facile. In 30 secondi lo fai. No, è facile. Io sarò magari invisibile. Vabbè, Baka, dammi il tuo falchion. E mi dà il suo falchion e io gli faccio light sul falchion. Finché vedete il suo falchion acceso, la magia funziona. Quando il campo antimagia si attiva, la magia viene soppressa e ritorna in azione quando il campo se ne va. Perfetto. Quindi saprete questo. Ok. Chissà se dentro la città il campo è attivo oppure è solo una difesa esterna. Credo che sia attivo anche dentro, non lo so. Bene, questo portone è possibile aprirlo? Ma è già aperto. Ah, scusa, è già aperto. Mm-hmm. Allora mi lancio invisibilità ed entriamo, vero? No. No. Ci vuole molta più circoncirca speziale, cosa stai dicendo? Visto con l'invisibile. Se vuoi ti lanci invisibilità e vai a dare un'occhiata e poi vediamo un po' dove andare. Perché mi hai preso, Khan? Non sono mica un ladro qualsiasi che si introduce furtivamente dietro le mura. Io sono un mago, mi tutelo con l'invisibilità, ma non vado avanti a fare da scout. Ciao. No. Chi vado avanti? Buck. È il più grande, il più grosso. È quello che non c'è alla sessione. E soprattutto quello abituato ad andare avanti a prendere la forza. È quello che può prendere più danni alla forza. Restiamo uniti. Affronteremo quello che ci verrà contro. Adesso la magia e funziona. Poi anche perché ci serve guardare lui, perché dobbiamo vedere la spada. In questo momento la magia funziona. Se vogliamo trovare un sacco di motivazioni per andare avanti, Mike. Dai. Io sono per andare tutti insieme. Andiamo tutti insieme. Andiamo tutti insieme. È un suicidio. Però almeno ci suicidiamo. Un wipe totale. Abbiamo la possibilità di entrare, cioè di stare, cioè di sopravvivere da soli, no? Sei quasi romantico. Mm. Andiamo. Ok. Avanzate oltre il portone. Piano, sì. Piano, con molta circospezione. Mamma mia. Quello, tanto è che se avanzi piano veloce, punta salite e ammazzate. Esatto, lo stesso. E così. Tanto, noi dobbiamo stare fuori per sempre. Cosa succede appena mettiamo piede? Assolutamente niente, la città sembra essere deserta e nulla sembra essere vicino a queste entrate delle. Quella in cui siamo è una via importante? Sì, chiaramente sì, essendo quella da cui arrivava, cioè una delle principali. Una delle entrate, una delle principali, assolutamente. Mm-hmm. Le case sono più alte, man mano che entriamo, mm-hmm. Ci avviciniamo, sì. Verso il centro. Cosa fa? Direi ci avviciniamo verso il centro sempre. Guardando nei vicoli, comunque. Ma va bene, Sodoma. Cercando di capire perché la città è abbandonata. Appunto, è abbandonata e diroccata oppure sembra è diroccata, che... È abbandonata da molto tempo. Allora, aspetto che la magia funzioni. L'ho scontato, ma sì. Scusa Danilo, aspetto che la magia funzioni. Appena inizia a funzionare di nuovo dopo un ciclo, lancio invisibilità su Sodoma, gli dico vai su, vola sopra di noi e seguici dall'alto e torna su subito giù e riferiscici la pianta della città. Così almeno non si allontana troppo da noi e non muore più. Vola in aria, invisibile. Una buona aria comunque di quello che c'è intorno a lui, mm-hmm. Nel senso. Cioè lui conosce attraverso quello che dice Sodoma. Sì, esatto. Quindi esatto. Noi proprio sappiamo dove siamo andati. No, però Sodoma è intelligente comunque. Ok. Mi sa spiegare bene, cioè mi sa anche fare dei riferimenti tipo sono due vie perpendicolari in cui si dipartono, Allora, ok, va bene. Volando in alto vede che il vecchio fiume, quello che ormai è morto, divideva la città comunque in diverse isolotte praticamente. Ah. No. Tuttavia da lui da qua ne vede soltanto tre, oltre a quella a cui siete voi. Cioè no, scusa, ci sono... Cioè il terreno da cui siete giunti voi, che non è un'isola ovviamente, no? Perché c'è parte di tutto, certo, tutto piano. Poi subito dinanzi a voi vi sono altre... Vi sono tipo 1, 2, 3, 4 isole. Non solo, ma nel lato nord... Sud... Sud-ovest vi sono delle mura interne alla città, oltre quelle... Sul lato sud-ovest ci sono... Voi arrivate dall'estremo nord. Mm-hmm. Ah. E sul lato sud-ovest ci sono delle mura... Quindi Sodoma già vede una buona parte della città. Sì, beh, no, infatti non vedrebbe così tanto, però ho dato per scontato che vedete quello che c'è, per farmi dare un'idea. E non vede un edificio... Questo è ancora comunque abbastanza all'entrata. Gli edifici importanti sembrano essercene tanti, mm-hmm. Ci sono diversi edifici molto grandi, imponenti. In centro ci saranno edifici per il culto? dici dei tempi, sì, vede anche un tempio, chiaramente, anche più di uno. Chiaramente. E... possiamo riconoscere di che culto? Che divinità? Allora, non sembrano... No, beh, minchiale, e poi, cioè, già tanto che li vede perché sono abbastanza imponenti, quindi no, non ho difficoltà a dire. Già non si capisce. Non... Ok. Beh, come... non è importante, non è che lo sto nascosto, però no. Cioè, no, certo, certo. No, io l'ho chiesto per il fattore di vedere chi era, per quello che l'ho chiesto, se no non chiedevo. No, sì, sì, beh, poi scoprirete chi era, no? Mm-hmm. Ma già avete un'idea, perché... Diavoli. Vilax aveva detto che... veneravano i diavoli. I Suli veneravano i diavoli. Probabilmente. Questa è una vecchia città Suli, come è probabile. Probabilmente sono tempi del diavolo. È incredibile che i Suli padroneggiassero una tale forma di magia, capace di far scaturire un campo antimagia del genere. Probabilmente c'era lo zampino dei diavoli stessi. Beh, voi siete ancora verso l'entrata, comunque. Mm-hmm. Avanzate. Avanziamo... sì, piano, c'è. Pianissimo, si ferma, piano, così. Ok, avanzate per... aspetta, qua quant'è la scala? Decisamente piano. C'è un passo, aspettiamo 20 minuti. Chiaramente non c'è una scala. Come non c'è una scala? Nel senso, non mi dice quanto è grande questa cosa. Vabbè, posso dedurlo. Avanziamo verso il centro finché non vediamo per, qualcosa. Un centinaio di metri. No. Scendete in quella che è una piccola piazza. Ah, no, beh, una piazza abbastanza grande. Cosa fa? A questo punto la strada prosegue dritta. A sto punto direi che l'invisibilità non c'è più. Beh, 100 metri. Solo 100 metri? Ah, comunque posso avere la lanciata overclockata, perché così dura un po'. Ah, sì. Devi tirare? O non è automatico? Sumo 25. Sumo di secondo è automatico. Sì, automatico. Non mi ricordo bene la CD, comunque dovrebbe essere automatico. Sì, sì, sono abbastanza sicuro. Adesso è dal terzo in poi, dal quarto in poi. Ok, direi di avanzare verso il centro. Sì, sai, i campi antimagia solitamente sono circolari. Non è assolutamente decisivo, però... naturalmente uno verrebbe da posizionare in centro una cosa che fa un'area circolare, anche se in realtà non è per niente detto. Ma il campo antimagia nel suo centro di solito ha qualcosa di fisico che si possa disattivare? Di solito un mago lo puoi disattivare, sì. Lo disattivo io il mago, dice Baka. Esatto. Però questo non so, per è possibile modo. Lanciare un campo antimagia? In che senso? Tipo lanciare una bolla. Il mago è sempre al centro del campo antimagia, a parte alcune tecniche molto particolari. È sempre al centro. In questo caso il macchinario sarà sicuramente al centro. Se vi fosse il macchinario. Se c'è. Se non c'è un dio, spero per il macchinario. Ok. Avanziamo. Avanzate? Ok. Cioè, avanzate per un minuto. Prove di perception per capire l'edificio importante. Prove di perception, tutti. 8, 7... misero 15. 17 più 4. Baka ha fatto 15 più. Ma cosa perso? Ma Baka... no, perception, ma così poco. Io ho fatto... no, non è andato credo. Quanto somma? Cioè, hai ragione. Giusto 4. Giusto. Io ho fatto 32. Aspetta. Grande Damasco, la nostra vedetta. Tu sei? Cosa sei di rete wifi? Baka? Allora, no. Netgear. Tutto lei prende, io non ho fatto praticamente niente. Io ho fatto 12, Baka ha fatto 22. 21. Sì, dai, il Damasco ha fatto 32. Nemmeno lei lo sa. Ok, mentre avanzate per la sala principale, senti su di te molti occhi. E guardandoti intorno vedi delle ombre che si muovono attraverso, cioè, per le case, nei palazzi. Le ombre come quelle di prima? Sì, ti accorgi che vi stanno... ma solo adesso se ne accorgi? Sì, solo adesso se ne accorgi. Dopo che siamo entrati per dei minuti nella città. Un minuto, ho detto. Già. 100 metri. Non so, doveva fare il passo così. E vedere ci sono delle ombre. No, ci sono ombre. Quindi, cioè, sì, dopo un minuto si accorta che... Dai, ci sta. Ragazzi, fermi tutti. Cosa c'è, perché non è che hanno subito lì le ombre, che sono arrivate, perché... Certo. Beh, oddio, non lo urlo, in effetti. Cosa c'è, Damasco? Fermi tutti. Cosa c'è? E loro possono vederle o sono troppo lontane e vedo solo io? Beh... quanto una volta che ce lo dici ci facciamo attenzione. Io e Baka 21-22. Io poco, più 12. Vedete, anche tu e Baka l'avete visto. Che cosa c'è, ragazzi? Qualcuno c'è. Io sono invisibile. qualcuno che vuole essere menato di non troppo corporeo. Non è così soddisfacente, in effetti. Ah. Bene, ti dovrai accontentare. Indico le ombre. Penso le vedano. Sì, una volta che Damasco le indica, le vedono. Tuttavia, quando le guardate, perché le indicate, si ritraggono più in profondità verso le case. Questo è strano. Capisco. Credo che stiamo... No, però aspetta. Ombre che non possono uscire alla luce del giorno? Potrebbe essere, potrebbero avere una particolare sensibilità alla luce del sole. O forse stanno solo studiando la loro preda. Sì, sì. Probabile. Tuttavia, se aspettano ancora qualche minuto, i loro attacchi non saranno... Avete visto, hai visto qualche ombra particolare, qualche demone, qualche... No, non hai visto niente. Erano come le ombre che ci hanno attaccato sulla nave. Esatto. Sì, sì, sì. I loro attacchi potrebbero non essere più efficaci tra meno di 50 secondi. Bene, potremmo muoverci? Sprighiamoci. Aspetta, se non tu c'è... tipo qualche roba protettiva? No. In che senso? Tipo una bolla protettiva? No, non faccio bolle. No. Tipo... Brulle, mille bolle blu. Tipo sono tipo, possiamo andare avanti? Sì, i muri, cioè quando non funziona la magia. In movimento no, cioè quando siamo fissi è una... Possiamo andare avanti quando funziona la magia? E tipo barricarci quando funziona la magia? Non è... Il fatto è che le mie protezioni sono per lo più magiche. Anche tu. Posso creare muri... Non lo so, andrei avanti e basta. E nel caso ci attacchi non ne fronteggeremo. Puoi creare muri che resistono anche quando non c'è magia. Sì. Però non infinitamente. Sì. 2 minuti. Sì, resistono infinitamente, adesso che sono permanenti, però... Sì, ma le ombre comunque penso riesca ad entrare in un muro. Delle quello non lo so. Ha detto che... Non passano attraverso le cose. Non passa attraverso il muro, chiedete. Beh, però... Non è fatto prima, no, non passa attraverso... No, i corpori sì, passano attraverso. Passano attraverso. Allora... Proseguiamo, dai, non abbiamo tempo da perdere. Cerchiamo. Avanzate sempre verso la via principale, quindi. Sempre più rischio della per forza. Vai, andiamo. Cosa possiamo fare per cercare i nostri amici? Cercare in giro per la città. Nessuno ha un incantesimo di qualcosa. Mi sembra il caso di mettersi a urlare. Beh, tanto sanno dove sono le nostre ombre. Invece potrebbe essere utile. In che senso? Non mi sembra per niente una buona idea. Non è una buona idea, ok. Visto che ci sono anche questi cultisti strani, cioè. Però non abbiamo i demoni addosso. Esatto. Okay. Deviamo dalla via principale. Potrebbero le ombre avere paura dei demoni, forse. È probabile, sì, è vero. Potrebbe esserci qualche strano rapporto. Le ombre potrebbero essere semplicemente il residuo di quei suli che abitavano la città e... essere dei reietti, e invece questi nuovi cultisti potrebbero essere una forza, nuovi padroni della città, una forza vitale, il padrone della città, non saprei, direi di continuare finché non cerchiamo, possiamo deviare dalla via principale finché non ci attacca, cioè. Vedo dove sono situate maggiormente queste ombre, sembrano aver circondato appunto la via principale. Che paura, mi sono addosso quasi. Mm-hmm. Mentre parlavate, ma sono tante, sono tipo, addensate, ma sono tipo centinaia, sì, bene, moltissime. Io dico una cosa, correre. Facciamo così. Man mano che voi aspettate diventano inquiete. Alcune osano magari spingersi più vicino a voi. Ok, camminare. Quando... Facciamo vedere che ci muoviamo. Passa un ciclo di non magia? Continuiamo. Adesso finisce la magia. Ok, vale. Finisce la magia. Bene. Si, io direi che è il caso di uscire dalla città al volo. Perché? Perché adesso non ci possono attaccare? Sì. E che cosa faremo una volta fuori? E ci ripensiamo fuori. Cerchiamo di conquistare il cuore di questa città e via. Se ci attaccheranno durante la magia, fuggiremo. Non so come, ma fuggiremo. Sì. È l'unica cosa che possiamo fare. Secondi. Stai contando i secondi di antimagia. Io direi correre. Intanto stiamo avanzando. Corriamo verso il centro. Dove avanzate? Verso il centro della città. Corriamo verso il centro. Vediamo se c'è qualche punto di riferimento. Ma non c'è qualcosa che attira la nostra attenzione? Non so, magari hanno fatto qualche segno sulle porte, no? Città grande, compagni. Cioè. E allora andiamo verso il centro. Alle ombre non possiamo chiedere, quindi... Ma mettiti là. E cosa vuoi che facciamo? Correre, ci mettiamo a correre. Ma anche in base alla piantina della città non c'era nessun luogo che attirava l'attenzione di Sodoma. Voi non avete una piantina. No, vabbè. No, Sodoma è un po' in alto rispetto a voi, già mi descritto molto più quello che dovevo. Ma noi dicono... Non vediamo nessun segno. Ho detto, ci sono diversi edifici interessanti. Andiamo al più vicino di questi interessanti. Oh, okay. Ok? Ok. durante questi due minuti andiamo a passo svelto, ovviamente muovendoci al quadro per la nostra velocità quando possiamo. Speriamo che la nostra... E state sempre sulla strada principale. Cioè. Se, sì, se c'è una via più breve che Sodoma conosce, possimo anche deviare. Se gli edifici interessanti, magari sono un po' spostati, ci andiamo. Se riusciamo a spostarci da questi non simpatici... Non benissimo, no, Khan. Tuttavia, è l'unica cosa che possiamo fare. 20, non è vero se fatemi... una prova di perception. Quanta il CA? Esatto. Non si chiede la CA, così. 20. 24. No, aspetta, perception. Io ho tirato acrobatico. 28. Dai. Quale? Tira come perception. Perception. Sì. Ah, sì. Cos'hai fatto di dado, eh? Tirato acrobatics. Ma quanto hai fatto sul dado? Due, ecco perché ha tirato acrobatics. Guarda, sono perfettamente fungibili i tiri di dado per le abilità. Scusate, corri. Se vuoi non li togli, non li faccio. No, due più. Io ho fatto 28. Io ho 28 in totale. 24. Aspetta, che tiro per. No, tiro uno. Ok. Io 28. Oltre il ponte. No, scusate. Alla cieca. Di cosa stai parlando? Andate, mentre avanzate, giungete verso il centro della città, vedete un ponte. No? Che conduce a una delle isole centrali. Dove sotto non c'è niente, c'è sabbia. C'è sabbia, sì. Certo. Chiaramente. Tuttavia, noti che su un'isola più a sinistra rispetto a quella dove conduce, cioè a sinistra, più a ovest, rispetto a quella dove conduce il ponte, vi è, quindi la nostra, nascosto dalle case, appena visibile, una creatura strana che non ha niente a che vedere con quelle che avete visto nel sogno, nella visione. Sì, esatto. C'è uno Snorlax che dorme. E cos'è? La vedo? Come sì, ha uno sguardo un po' spento e smarrito. Quanto è grande? Fermo. Tuttavia, nonostante la sua situazione, non sembra essere la cosa che ti colpisce, chiaramente, che non sembra stato massacrato dalle ombre o mangiucchiato, robe del genere. Certo. Beh, magari è semplicemente in tregua perché le ombre non possono attaccarlo. Però non c'è la magia. Nel senso, è fermo lì. Cioè, nel caso starebbe scappando, no? Giusto? No. Mi fai vedere le magie di questo? Quanto è grande? Abbastanza grande, per questo l'hai notato, anche se era nascosto dalle case. È lì fermo? Sì. Cosa fa? Ah, niente, ha lo sguardo spento. Nel senso, spento come morto? No, spento mi sa come perso. Cioè, sembra che stia aspettando qualcosa? Sì, diciamo di sì. In un luogo a caso, in un edificio particolare? No, fuori per strada. Come faceva vedere l'edificio? Oh, accanto, dico, comunque. Ah, no. Non c'è niente di particolare di luce. È un mostro brutto. No, non così brutto. Comunque, che dobbiamo avvicinarti, forza. Qual è? Questo qua. Tipo un drago, è un drago. No, che è un drago? È un brutto. Era un incrocio tra un drago e un porcellino. Ma quindi capisco che non è roba magica, ma roba ben. Cos'è? È un porcellone con i dentoni. Si chiama Catoplebas. Ah, è Catoplebas. Il maiale mannaro. C'era in Final Fantasy un Catoplebas. CR20. Hai letto che è CR20? No. Troppo tre. Sembra molto. Sembra CR20. Ma se carino. Un sguardo perso. Non saprei che ti ha. Guardate là, ragazzi. Lo sguardo più o meno come qua, così. Ma ci ha adocchiato? No. Era da bene, non si vedeva bene. Infatti è un po' lontano da voi. Ma è grande, la cosa che mi colpisce è che non sembra essere attaccato dalle ombre. Cioè, non sembra che le ombre lo stiano cagando. In ogni caso. Ci avviciniamo a quell'essere. Sì. Posso fare una prova per capire un po' cos'è un catoblebba? Beh, tu non l'hai visto. Cioè, sì, quello che ho fatto 24. Lui ha fatto 28. Guardate là, ragazzi. 24. No. Vabbè, me lo indica. Sì. Ok, state scappando dalle ombre. Non è che. Ah, guardate, lì c'è un catoplebas. Ok, vabbè, lui lo vede, ah, cosa sì, fa? È un'interessante creatura dal mite sguardo e molto socievole, mentre per cosa fai tu quando lo vedi? Tu lo sto facendo in un minuto in cui non funziona la magia, poi venite massacrati dalle ombre. Ok, va bene. Io vi dico che c'è, ma comunque la priorità rimane andare verso il centro. Va bene, allora andiamo. Okay. Andiamo verso il centro. Corriamo. Dove? Sempre verso il centro. Sì. Verso l'edificio importante, sì. Verso l'edificio interessante. Raggiungibile in meno di due minuti. Lui ce l'ha fatto vedere sto cavolo di animale. Sì. E allora andiamo verso di lui. Ok, quindi andiamo verso di lui. Ma no! Ma sì, ma perché... Cioè, se lui sa come non farsi notare dalle ombre... Ma non è io! Non ha l'aria di un animale che ti spiega come non farsi notare dalle ombre. Ok, ma è sotto un ponte? No, è in giro, per strada come voi. Ah, ma cammina e non mi sembra il caso di peggiorare la nostra situazione. È fermo. Sì, è fermo lì. Ok, ma noi gli passiamo... Magari ci vedono solo se... Le ombre ci vedono solo se ci muoviamo, come i tiranosauri di Jurassic Park. Ma stai fermo. Scusa, se prima si stavano avvicinando mentre eravamo fermi. Tanto, che cosa cambia? No, erano 100. In un minuto non ci è arrivata l'edificio importante. No, siamo fermi. Come lui, imitiamolo. No. Le ombre sembra fregare un cazzo che state fermi, ovviamente. Perché lui non è perché attaccato? No? Cos'ha, un'area divina? Cosa non posso fare? Sappiamo qualcosa su questo animale? Cioè, se ci avviciniamo ci tira una zannata. Non sai, stavamo riconoscendo. E tu mi hai detto che non potevo. Oh, 19 più 100,000 billion trillion. Sai che è una bestia magica. Grazie. Sa qualcosa sul temperamento, del tipo ci attacca, sì, se ci avviciniamo. È una persona, cioè è una persona, una creatura molto feroce e distruttiva. Ah, mi sembra il caso. Il caso che sia il fermo, infatti, è peculiare. Probabilmente è stato pietrificato così, posso capirlo? Infatti, che subito. È stato pietrificato oppure respira? Vediamo non che lo respira. Sai. Mi fai saperlo. Supponi. Se fossi di pietra lo vedresti, cazzo. Si vede se respira. No. Le domande al se master. Respira, no, però cioè, non è pietrificato, va bene. Ok. Vabbè, ci possiamo mettere nella sua area. Che cazzo lo so. Non, c'è più, non arrivava nessun edificio importante in meno di un minuto. No, chiaramente. E allora arriviamo al Cato Blebas in meno di un minuto. Certo. Andiamo al Cato Blebas. Allora andiamoci. Oh, ma non gli ho appena detto io che ci dobbiamo andare tutti noi. No, no, è solo lui. Solo lui che rompe il cazzo. È una creatura cattiva, mi fa la bua. No, non entriamo in città, entriamo piano, entriamo con un piede, entriamo. C'è una sequela di idee di merda, secondo me. Buone, dice il tizio. Una dopo l'altra. Il tizio andiamo da sto cazzo di catoplema. Andiamo. Dico, datemi sto cazzo di catoplema. Okay. Posso avere? Arriviamo da catoplema. Sì. Come? Chiamiamolo Bobby. Voi come ci arrivate? Cioè, andate giù sotto il fiume e poi risalite. Sì. Cioè, non Beh, dimmi se ce la facciamo nel tempo. Sì. A un certo punto, a un certo punto non corriamo più. Come dicevate su quell'altra isola, le ombre che vi stavano seguendo cessano di seguirmi e vi guardano un po', diciamo così. Adesso non sembra più una cattiva idea. Allora non andiamo più, cioè appena arriviamo lì non ci facciamo notare dal Catoplebas, appena andiamo su quell'isola. Va bene, sì. Siamo un po' lontani, diciamo. È comunque abbastanza vicino, vi avrebbe visto sicuramente, perché sai che è una creatura che ci vede molto bene. Io lo so. Sì, tu lo so. Vabbè, insomma. La creatura ci vede molto bene, avrebbe sicuramente notati e sbranati se fosse un Catoplebas normale. Bene. Tuttavia questo sembra essere mansueto. Io voglio capire perché. Anch'io. Avviciniamoci, visto che sembra così mansueto. Ci vogliamo avvicinare? Prego, però rendiamoci visibili tutti. Rendiamoci mangiabili tutti. Tanto scatta la... Scatta tranquillamente la magia adesso. Cazzo, cioè, è vero, magari è per il fatto della magia che lui è lì. E lui li fermo. Magari questa isola... È magico? Lui è una bestia magica. E allora... Quindi magari per il fatto che scatta la magia che... Cioè, che no, perché non c'è la magia. Adesso funzionava la magia. No, non funzionava adesso in quel momento. Adesso? Non funzionava in quel momento. Quindi magari... Appena... Dalle ombre, ecco, quindi magari... Giusto. Quindi magari il fatto è che quando si riattiva la magia, lui diventa... Si ma le si attiva e ci mangia. Sono sbranano tutti anche quando non c'è la magia, le bestie magiche. E allora cos'è che fa di magico? Davide. Ma ha tante abilità spellai capì, ma comunque soprattutto lui è una bestia magica, non è un cane. Ok, allora, vediamo in che direzione sta guardando sto minchia di catoplema. Cioè comunque gli fa male anche quando... Sta guardando... Per terra. zitta. Senti, avviciniamoci al Catobleva. E basta, è il trans per qualcosa, minchia. Avviciniamoci. Andiamo da questo Catobleva. Sì, avvicinate. Finalmente. Sentite una voce nell'aria. C'è un'empia voce nell'aria. No, una voce che non è per niente empia. Oh mio Dio, è coso. È il gay, come si chiama? No, non è gay. Un peccato. È una voce che non sapete riconoscere, che non avete mai sentito. Dice la roba del tipo, che dice così. Prego, prego, avvicinatevi. Questo è il mio Catoplevas, vero? Pensare che ci ho messo un po' a renderlo, cioè, come si dice? Addomesticato. Così, addomesticato. Se il, non è che ti ho sentito parlare. Questo è interessante. No? Comunque. Ma chi ti ami? Se volete avvicinarvi e provare ad attaccarlo, basterà pronunciare la parola Catoplevas e a quel punto potete decidere di cercare di sconfiggerlo. Ricchi premi aspettano colui che riuscirà a sconfiggere il Catoplevas. Ma l'ha appena detto. L'ha appena pronunciata. Vabbè, che cavolo vuol dire? Cioè, questa è soltanto la registrazione, comunque. Ah, ho capito. Che però è interattiva con noi. Prego, non si risponde più alle domande di quelli che parlano, comunque. Come la parola magica? Ricchi premi attendono quelli che attendono il Catoplevas. La parola magica... Ok. Ce la ricorda. Ce l'ho. Anch'io ce l'ho. Ecco, non diciamola, grazie. Che bastardo. È tutto qui, ha detto così. Bug, avvicinati da lontano da uno. Esatto. È vero, è vero. Quando tu lo dici, Bug lo dice. Eh? Quando tu chiedi quella parola magica, lui fa Cato no! Il Catoplevo. Dai, non funziona la magia. O sì? No, adesso sì. Ah, ok. Porca troia. Così no, vi attacca. Seriamente. Ma io lo volevo. Io lo volevo come amico, Bobby. Ma chi è questo? Iniziativa? Ti prego, voce. Riaddomesticalo. Magari se lo dici di nuovo si ferma. No? No, non credo. E se lo dici al contrario? Ci mangia. Tutti, ci mangia tutti. Oh, che preso male che sei, solo perché ci sono un po' di ombre in questa città, cioè... 26. Deve essere mortale, uccidere. Gli ultimi tre tiri sono stati... tutti gli incontri finali sono stati quasi tutti mortali. 19. 26. Sì. No, no, vuoi metterti qua invece di fare il distorto? Dai, chiedici l'iniziativa quando vuoi. La giusta 26, che probabilità c'è di shottare un Catoplevas? Chissà che diamine era questo esserino che controlla il Catoplevas. Il povero Catoplevas. Se dice ricchi premi, magari sono... Ragazzi, okay. Quanto avete fatto, ditelo? 19. 26. 14. 21. No, scusa, 16. Prego, uccidete. Bene. Ma l'ho superato anche con il mio 16? Sì. Bene. Io tiro 3. Ottimo. Quindi vuoi andare tu prima? Sì. Io primo, 26. No. Ah no, tu lanciami Ace, bravo. Ok, lancio haste. Adesso ci penso un attimo. Comunque, magari faccio. C'è la magia in questo momento? Sì. Per quanto ancora? 6 round. Però lancio haste come. 6 round. 12 secondi. 24 secondi. 6 round. 6 round, dai. Lancio haste, ma come azione standard, non come con il mio famiglio. Ok, quindi faccio solo questo per ora. Vediamo cosa fate. Va bene. Okay. Io uso un key point, lo attacco di brutto, gli lancio tutte le cose che ho. Vai. Io indietreggio, comunque sono invisibile, ok Danilo? Mi hai lanciato la lista, hai detto? Io faccio 29. Colpisco hai 29. Hai anche East, l'hai considerato? Qui? No. Colpisci 3 volte, considerato che... Hai haste e key point. In tutto 3 volte. In tutto 3 volte? Quindi fai solo un attacco però più haste e key point. Cazzo, non benissimo. Vabbè, ci sta. 5, 2, 1 fa 8. Non benissimo. Più? 24. No, 36. 8 più 36 sono 44. A class headshot, ricordati. Sicuro. Ok. No, sicuro lui c'ha... Sì, probabile che abbia la maggiore... Cioè, quasi sicuro. Ok. Ah no, questo è un 7, non è un 1. Scusa. Damasco. Aggiungi altre 6. Ho detto 1 come 7, 7 come 1. Ah, figo. Bene. Vieni qua. 50. Però. 16 più 16 fa 20. Fa 32. Devi colpire la touch, no? Sì, lui sì. colpisce la touch. Minchia, ti fa sempre Vado. Io? No, lei colpisce la touch, quindi dai, 32. Fa. Quanti fa? Era normale. È no PA? No, c'è tutto qua. Adesso ti deve dire quanti quindi, attacchi fa. Abbiamo dormito per prima del dopo i fantasmi. Sì. Ho recuperato i miei key points. Fai i primi 4. Però non so, tu usi due compagni in graphic shot. Quindi li fai tutti. Sì. Based. Quindi 6. Sparo. 5 sono. Anche base. 5 6. Vai. Però faccio il default. Va a carica direi. Sì, aspetta. Fa anche i precision damage. Sì, farò il default. Sì. Vabbè. 6 volte il default di forza. 29. Devo fare ogni volta per vedere se attacco? No, devi solo fare i danni adesso. Vabbè. Tu diglieli. 29. No, 26, scusa. Ok. Vai. 31. Sono 6, vero? Sì. Vado? Sì, tu vai. Ma c'è quello che facevo 7 attacchi, vero? Eh? E quando è che io facevo 30 attacchi? Sì. Fatto 30? Hai segnato 30? Sì, è morto. Bene. E ne ho ancora uno. Ah, chi lo do? Benissimo. Al tipo. Mica una bestia gigante. Ma che cacchio vuoi? Cioè, è una bestia grande. Ne hai uccisi bestie grandi, anche scorpioni giganti. Vai cioè, tranquillo. Di livello 14. È un CR 14? Ma voi siete livello 14. Infatti. Cioè. Infatti, potete uccidere diversi draghi a questo punto. Infatti. Da soli. Cioè. Esatto, quindi bene, ricchi premi. Sì, ricchi picca, mi hai messo poco. Dice così. Fortissimo. Ricchi premi che uccide il cadavere. Cos'era un CR? 16, 12. Praticamente vedete Baka che dopo aver urlato il nome del cataclisma si scaglia l'attacco del cataclisma smulinando il suo falchion, però lo precede. Prima di arrivare. Lo precede 7 frecce e 6 proiettili. E il cataclisma si accascia al suolo e lui dice: ma che diamine! Dannati attacchi a distanza da codardi! Così. Si accarisce sul corpo. Il problema scompare dopo che l'avete sbagliato di luce. Sì, ricchi premi, certo. Il primo ricco premio è la possibilità di ottenere altri ricchi premi sconfiggendo questo. Adesso mi capisco, no? Aspetta, ma questa è una voce registrata? Cioè, sì, è una voce registrata, va bene? Oh, mamma mia! Bellissimo! Io appena ti trovo ti uccido, lo sai, vero? Non ti uccido. Tu capisci cosa può essere? In che senso? Non... Sicuramente non è una voce registrata. Può essere tranquillamente un incantesimo livello 0 che fa una voce a distanza. Potrebbe essere qui invisibile da qualche parte. È questa bellissima lucertola che per gli intenditori è un Cradle Linorm. Anche questa è una... Posso fare una prova? Immagine. Ha una parola magica? No, questa qua è già bestia. Faccio una prova. Cioè, ha lanciato addosso questo. Sì, falla sta prova. Ah, dai. 9 più che conoscenza? Natura, Spellcraft. Non so, per i draghi cos'è? Credo Spellcraft. Dici che è arcana, quindi. Sì, può essere. Vabbè, se è arcana ho fatto 34. Se invece è tipo natura... Però non vedo perché ho fatto tipo 22. Simone che scrive su qui. Cosa c'è da Simone? Che scrive okay, su è una qui? Creatura abbastanza più temibile rispetto a quella che avete affrontato prima. Dove compare? Esattamente dove stava prima? Sì, dove... anche lui con un bagliore di luce compare dove prima c'era il... Quindi a fianco a Bug. Sì, esatto. Però lui anche lui non sembra attaccare. Certo. E i secondi ricchi premi? Quali secondi ricchi premi? Questo è potete affrontare questo per ottenere altri ricchi premi. Va bene. Parola d'ordine, provo a dire con lo stesso algoritmo il nome di quello lì. Sì, e poi cos'è così facile, dice? Ci hai provato, Ciccio. 1, 2, 3, 4. Andiamo avanti ancora per lungo? No. Il più velocemente possibile. Abbiamo ancora 4 round, 5 round. Pochi secondi. 20 secondi mi cado di là per forza subito. Ah, è vero, più scemo. È vero, allora aspettiamo. Aspettiamo che passino 2 minuti e quando inizia la magia. No, che sai cosa? Che avevamo East. Beh, lo ricasti. Ricasto, lo ricasto. Sarà così, eh. Ti scegli tu? Se vuoi combattere senza magia? No. Bello questo campo, mi piace, eh? Sì. L'ho pensato bene, vero? Sì, sì, sì, infatti. Va bene, allora aspettiamo. No, nessuno. Ah, tu ce l'hai, Ace? C'è del candele da comprare. Lo passo io. No. Così tu non sai. Allora d'ora, vediamo un po', aspetta, se me la ricordo. Congiura di tuoi manipoli. Non si può cercare se c'è in giro sto tipo che è invisibile? Sì, sì, è vero, si può fare. Culo tuo potresti trovare in qualche modo. Sì, però per ora non funziona la magia. Quando? Appena funziona. Appena funziona. Allora magari nel tuo turno cercare. Allora è fredda collina in questo caso. Vabbè, perché queste creature qua vivono vicino a colline fredde. Non ci interessa. Oppure posso sparare per tutto il tempo, tanto chi se ne frega, io ho tutte le cose gratis. E se lo trovo muore. Eh? Ma no. Allora, nessuna idea. Potete cercare la voce registrata per quanto vi pare, ma non la troverete. Appena ti trovo ti uccido, te l'ho già detto. Non vero? Credo si trovi qui. Non lo so, invece potrebbe essere. Non so. Ma piuttosto, sai qualcosa degli altri nostri amici che sono entrati? L'hai visti? Prego restare in attesa. Ok, io inizio a sparare. Ok, quando inizia, quando finisce il campo magico, cioè quando ritorna la magia. Tu provi a sparare contro il catoclebas anche se no. Sì, il sparo intorno, non a lui. Sparo intorno. Ma no, dai. No, a me no, io abbasso. Scherzo, non sparo, ragazzi. No, perché poi attiri un sacco di cose. Esatto, non sparo. Anche se mi piacerebbe tanto. Perché la odio questa voce registrata. Sì, ti capisco, però non è questo il modo di risolvere le cose. Dati in lascia, vai a fendere l'aria finché okay. Non lo becco. Poco prima di... cioè, appena ritorna la magia, lei casta haste. Mm-hmm. E io evoco. So che è molto più pericoloso del catoblepas. Un po'. Perché l'abbiamo sconfitto? Per avere ricchi premi, Khan. Io li voglio. Sinceramente mi sembra semplicemente che questa voce ci stia prendendo in giro. Sì, concordo. Io sono per sconfiggerlo. Ma intanto chiediamo. Ricordiamoci che siamo qui per fare cose ben più serie che sconfiggere. Sì, ma abbiamo la possibilità. Bestie create. Di ricchi premi. Abbiamo per farci perdere tempo. Abbiamo la possibilità di ricchi premi e poi ci possiamo anche disporre come vogliamo. A me sembra una opportunità interessante. Ma scusa, allora noi possiamo preparare l'attacco. Ma tu perché cosa vai all'avventura? Non ho capito io. Fatti, ma che pullo! Ma scusa, mamma mia, che codardo! Come uscire da qua? Ho capito, però se uno entra in una città abbandonata ricca di tesori, ma che c'è? Prende tesori. In ogni caso, questa voce, anche per quanto irritante, è l'unica cosa che non sia un'ombra come mangiare. Infatti. Oh, senti Danilo, so per caso con il tiro tipo 30.000, 32 che ho fatto, 35 di Spellcraft, se ha una riduzione del danno, suppongo già di sì. Sì, sì, ce l'ha. Ce l'ha, ok. Va bene, io evoco. Ma allora noi possiamo preparare l'attacco. Esatto. E per questo siamo avvantaggiati, no? Sì, perché giusto prima non l'abbiamo fatto. Prima abbiamo detto la parola così a caso. Sì, ma... Se io faccio... Esatto, dai. Adesso prepariamo l'attacco e appena si sveglia lo sciottiamo. No, no, non funziona così, fa iniziativa comunque. Allora, ditemi se va bene quello come, che... Scusa. Come? Sì, pensaci. Fa iniziativa comunque. In che senso? Siete entrambi aware della... Ah, sì, se prepara l'azione sì. Allora, sentite un attimo quello che facciamo. Quando ritorna la magia, lei... No, io evoco le mie bestie. Provo a farlo overclockato. No, non serve. Non serve, evoco le mie bestie. Ok, lei fa haste e io faccio blood scent, così do più 2 a tutti quelli che hanno l'abilità ma di sniffare e tutti quelli che sono in rage. Ma se lo uccidiamo così adesso? No. No, aspetta. Mi sembra un po' troppo facile, Khan. Sì. Facciamo così e poi diciamo la parola. Mi sembra legittimo provare anche un non pensi di essere il suo ricopriere nel caso, ma se vuoi provare già a indebolirlo sparandogli. Io provo a tirare una freccia. Calma, non si fa queste cose, no? È una barriera, compare, blocca la tua freccia. Ok. Cos'è? Quasi ricchi premi, cioè si ottengono per i valorosi quelli che sanno usare la... Come si chiama quello strumento lì? La spada. Dai, sì. Diciamo la parola, colline d'inverno. Devo ricordarmi di metterla posta. Collina fredda. Fredda, colline d'inverno. Colline fredde. Come dici collina fredda? Ah, sentiva. Fredda era. Ok. Fredda collina. Quindi facciamo fredda che abbiamo detto. Io devo evocare un... Cioè, ho già evocato un di 21. Più uno di triceratopi. 16. E Baka tira... Quanto ha di... Iniziativa 15-20. Io 21 e Baka 20. 20. Quanto sommate voi che avete fatto 20? 12. Tu tanto, Baka quanto somma? 5. Ok. Perché? È importante se c'è un pareggio. Chi è che somma? Chi è che è prima? Chi somma? Quello che somma di più. No, un di 3 di Anchise. Io 21. Anchise o i T-Rex? No, i T-Rex non posso. Tu quanti hai fatto l'iniziativa, Davide? No, non l'ho fatto, scusa. Solito 8 più 6. Avete anche il sound da prima. 14. Almeno che non sia lui. No, no, no, attaccatelo, figurati. Tanto avete già Insti, l'ha fatto tu. Ah, sì. C'è già. Un di 3 più 1 di Anchise faccio. Ma dove fai l'iniziativa tu? 3 Anchise. 14. Scusa, 16. No, 14, 14. Ah, prima usate key points. 16. Tutti, sì. No, aspetta, voi 4, voi 9. Io 21. Allora. Mi agire can. Metto in gli Anchise li metto in modo che carichino. L'attacco. Non benissimo. 25. Ah, contro totale? Sì. Non hai tirato? 6. Fai quello che hai detto, un glancing blow, ovvero prendi il minimo del dado, perché non lo colpisci in teoria, però l'hai fatto per non essere così pesante. Prendi il minimo del dado e... metà dei fissi. Esatto, fai no, cioè, prendi il minimo del dado, ci sono i fissi, poi fai la metà. Ah. Una volta sola. Sì. Quindi 13, 6 danni. Giusto? Sì. Sì, beh, come se avessi mancato. 6 danni. Però vabbè, la riduzione. Possiamo anche non farlo contro di lui. Chi tocca? Tocca a Eleni. Allora io farei... Ma scusa, il fatto è questo. Io quando è che riesco uso i key points. Oh, frostbite. Fai prima l'attacco. Fai un frostbite se vuoi. Ma prima, ricapitalo con un full attack. Prima il key points lo usavo effettivamente. Cioè, fai tutti gli attacchi qua, infatti, qua invece ok, perché prima, fare anche un film, come volevo di prima, il key points lo usavo solo quando fa, cioè, siccome swift action, ma solo quando di darti un colpo e ti puoi colpire i danni. Prima dovevi dirlo prima, e come fa? Giusto, qui magari resiste. Ah, comunque vero, tiro per il key points. Con la stessa abilità, cioè, anziché sì, sì, il key points ti dai un più 2, ti tiri lo swift action. Ah, perché io ho già anche il meno 2. Per usare il key point per fare un attacco in più, usare una quindi, ok, lo faccio. E quindi in realtà avrei 3 attacchi. Meno, quindi ho preso dato non più 4. E devi tirare un dado, devi dire. Ok, faccio frostbite. Lo recapita con il sull'attacco che fa tutti gli attacchi. No, faccio scimitare normale che così. Esatto. Per resistance frostbite? Sì. Devi fare delle prove se vuoi. Ok, 16 più 19. Io per colpire dici? Sì. Per 35 per il preso 19 e si, 35? Sì, ma devi sapere di quanto l'ha preso vitale. 35, sì. Di quanto l'ha preso? L'ha preso proprio due volte. Due volte, due attacchi. Ma compreso haste? No, no. Che fa? Uno di frostbite. Ah, sì. Al massimo del bonus ne fa 3. Uno di frostbite, uno non di frostbite. Cioè uno base, un haste. E poi quello è il secondo. E 4. Quindi 4 attacchi. Però io volevo fare quello che dici, sei immune ai danni da gelo e non è immune non letali. Non è immune non letali da gelo, però comunque riduce. Fa la spell resiste. Ah, giusto. Io volevo fare quello che mi hai detto tu, quello del più 2. Sì, l'hai fatto prima. Ah, okay, si è data più 2 tiri per colpire i danni come più 2 per 3, non so quanto. Come Magus. E dai, fai danni, hai 4 attacchi. A ciascuno di questi attacchi devi tirare un dado da 20 per fare la spell resistance. Se la superi fai il tuo livello di danni. 15. Non so se avete sentito, però... Come danni il suo livello. Ho fatto 15 sul dado. A tutti gli attacchi. per la aggiungi per resistance 14 e quanto so sì, beh, comunque la passi quindi... per resistance su caster level sì, infatti 15 più sì, la passa perfetto. Ok, quindi tira i danni che sono vai fa tutte le volte no certo sì. Questa era la frostbite quindi faccio 20 faccio beh, è uguale 14. Allora il tuo attacco base qual è? Sì, quindi un dado da 6 più 10, giusto? Sì. Quindi fai 2 dadi da 6 più 24. Questo avevo fatto 2, questo 1. 3 quindi... più 24. Sì. 3 più 24, 27. Se fai i danni del secondo attacco, 2 no, per resistance. Mm-hmm. Okay. Superata. Okay. 2 dadi da 6 più 24. 3. E 3, 6, 24, 30 danni. Fai per resistance 9 più 14, 23. Fallita, credo. Forse no. Sì, fallita. Fallita. Quindi fai un dado da 6 più 10. 13 danni. Ultimo attacco sempre per resistance. Ok, quindi non faccio il Flaming Burst. No, hai già fatto più due tiro per colpire danni che non stiamo considerando, tra l'altro. 19, quindi la supero, credo. Sì, sicuramente. 5. 5 più 5, 10 più 24, 34. 34 danni. E la penalità dei livelli negativi è anche i danni? No. Mi pare di no. Non credo. Comunque, se non è anche i danni, devi aggiungere altri 8 danni che fa di... che sono un più 2. Comunque adesso controllo. Bene, questo è quanto. Dici tu poi a chi tocca. Aspetta, una cosa, ok. Tocca a lui! Ma sì. Scusa, aspetta. L'ottimo Baka. Ho fatto come lei, ma somma meno di due iniziative, lui somma a metà. Chiesto. Anche lui ha fatto 20, no? Quindi a metà, prego. Tocca a lui. Scalda. Che... vediamo un po' se facciamo fare... sarà Baka con vicino. Il fulatta. Sapete come funziona il fulatta con questa dei... ah, sì, dei attacchi naturali. Attacchi naturali. In pratica, per ogni volta che colpisci puoi fare due attacchi primari o uno solo secondario. Cioè, se io ti colpisco... A più 0, diciamo, posso fare due degli attacchi primari, no? Ti colpisco a più 5, posso fare 4 attacchi primari, per dire. Oppure due primari e un secondario? Esatto. Che senso ha? E perché, cioè, comunque è al limite dei tuoi... Ah, ok. Di quelli che hai. Okay. Va bene. È forte per il mostro. È molto forte, sì. Per quello vicino che è Baka, gli altri sono lontani, credo. Davide, gli anch'ise sono distanti, perché sono pronti per caricare. Tutti siamo invisibili. Chianchise. Ho giocato 3 Chianchise. È vero. Sì. Quanti? 3. Sovresta il nome del padre. Si chiamano Chianchise. Tutti. No. Tutti quanti. Chianchise come il padre di Enea. Soprannomi. Chianchise 1, Chianchise 2. No, che triste. Cosa fa questo ottimo? Come si chiama? Non rischiare di tirare uno come Yuka e Shep. Devi fare un altro mostro uber inutile. Come lo chiamiamo? Fa un cono di magma che li inghiotte. E ci becca tutti? Sì. Non hai detto dove sia abbastanza. Sì, grande, sì, dai. Sì. Non hai detto mi metto lontano. Beh, ci becca tutti. Dai, becca tutti e basta. Quindi. Qualcuno ha l'app sotto mano? Sì, tu. Fate un tiro salvezza riflessi. Ma la lava è per terra. Io credo di non aver ancora superato un tiro salvezza 17. Da quando abbiamo cominciato la campagna. Vediamo se... abbiamo più uno. 17. 2, porca puttana. Dove stai? È di qua. Non ci sono gli attacchi. Ah, grazie. Niente. Riflessi, giusto? È spell like abilities? No, qua. No, è supernatural. Faccio 16 totale. Io faccio 21. Che monaco gli fa. Ma fai tirato 2. E capita di fallire TS, zio. Faccio 21 anch'io, tra l'altro. Io faccio 21. Qualcuno ha fatto sopra il 23 per dire, no. Non è no. La DC. Io allora tutti lo fanno di te con dei puri. Che non è la DC. No, non è la DC, ma tu un numero sopra la DC è punto per non dire qual è. Ah, minchia, Altina. Cazzo. 26. Un sacco di botte, secondo me prendiamo sto. Ma no. Baka l'abbiamo tirato? L'abbiamo tirato Baka? Dai, tiri qualcuno, ecco, bravo. Minchia. 15. 15 più... Lui la sarà superato sicuro su un... 7, 12. 100,000 billion trillion di roba. Perché mi sa che se è in ira lo superava, siccome non è in ira non lo supera. Ma sì che in ira, mica ci siamo preparati 10 minuti. 15 più 12, quindi fa 27 lui. Sì, lo passa. Figa, ma perché potevo... Devi essere in ira. Lo passo anch'io! Ho fatto 13. Più 16. Questo va. Tiriamo questi danni. Devo tirarli per ognuno di voi. Ma tirali tutti uguali, Danilo. Ah, non ce ne conosciamo più. Ci sono 70. Alti. Cosa? Che cazzo dici? Vabbè. No, io voglio il mio. Dai, segnateli e non rompete. Si già divisi. No, 70 da tutti. Ma sarebbero gli hit point, giusto? Sì. A voce. Okay. Punti ferita. Cosa hai fatto? Io c'ho tipo 100 punti di vita. Ne ho perso 70. Ti avevo tirato alto. Scusa, 6 hit point non sono qua. No. Ah, no, aspetta, c'è un errore. Sono 65. 65. Sono 65. A parte Baka. Sì, ho tirato alto. Sto tirandone un paio. Ah, sto con 83. Ragazzi, 15 di 8. Dai. Minchia, c'ho tipo 15 via. Vabbè. Dove allora mi date. È? Dove cavolo sono? Dove sono i punti vita? Qua. Ha finito? Okay, il terreno sotto di voi comunque è pieno di lava adesso. Cioè non è lava, è ancora rosso incandescente. Quindi fa dopo. Sì, ha finito, qua sì, devi scrivere. Mi te l'ho buildato io che fa altre cose. Esatto, dai. Chiama l'iniziativa. E tocca a Baka. Dai, Baka lo shot. Baka si toglierà da quel posto. Ah no, lui. Cosa deve fare? Cosa devo tirare per lui? Fa da maggior realtà quella roba lì. Col Falchion? Dai, sì, vai. Uguale, capite vedo, che stando sul terreno rosso. Falchion o Falchion Power Attack? Dai, vado prima io. Non c'è molto da fare. Capite che entro poco vi farà ancora male, diciamo. La cosa che vi ha colpito. Allora vado prima io. No, perché? Quanto è grossa sta lava? Mi posso togliere con un passo? Tanto è uguale, no? No, con passo è grosso. Dai, vado prima io, faccio su tutti i fly di massa, così tutti possono volare. Ma la lava è solo per terra, quindi. Quindi non ci può fare un altro attacco. Cerco di farlo overclock. Beh, non è detto, la sputa e ci la prende sputa. Comunque. Detto, fa un colo di lava. Faccio su tutti i fly di massa, così tutti potranno volare. Cerco di farlo overclockato, così poi dura di più. Com'è la CD? È un incantesimo di settimo. Ma cosa fai overclockato a fare di serie? Perché così dura di più, poi dura così 10 minuti per livello quando abbiamo finito sta menata. Ce l'abbiamo. Sì, dura comunque 70. No. Dura comunque ore così se 10 minuti per livello, se ne frega. Ah sì, è vero. Dura comunque tanto caster level. Infatti questo, che per quel livello alto non ha molto senso cercare di overclockare, perché è vero. Ok. Allora niente, lo faccio normale. Poi vado con gli Anchise. Loro sommano 18. Perché carica? Gli Anchise sono colpiti, no? No, perché erano ai lati, credo. Ah, ok, va bene. Comunque non muoiono. Loro sommano 18. 4, fallito. 7, fallito, credo. 18 più 25, fallito, vero? 18 più 25? No, 18 più 7, 25, fallito. Ah, sì, sì. E questo dovrebbe aver colpito, 18. Più 18, 36. Quindi fa 3 dadi da 6... Fare la solita prova. Però scusa, colpivo con 27? Sì. Allora ho colpito anche. Scusa, no. Ah, con 28? No. Cazzo. Se no. 9. Scusate. 10 più, più 14, 24 danni. Più il tiro salvezza Fortitude. 10. 25. Minchia. Come passa? Ok. E basta. Altrimenti cosa facevi? Sta fermo un turno. Dazzato per un turno. Infatti che potevano farlo tutti e tre, volevo. Quanti danni ha preso? 24, mi pare. Solo che hanno fallito tutti e due, ho anche dato su Mastro 20. Però aveva tirato 3 e 7, come al mio solito. No. Vai, ti tocca. Ah, Bacca. Ti sì, cosa gli tiro? Ah, il falchion devo usare? Sì. Bacca in fly. Ma il normale, il power attack, il race... Bacca può attaccare mentre in fly. Mi sembra che lui sia un massimo di 23, no? Race o power attack? Bacca può attaccare mentre in fly. Fai race, che 26. Ah, questo qua? Più 26. 26, sì. 13 più 26 può volare se vuole. 39. Sì, 39. 39 colpisci 3 volte più 8, 4. Quindi mazzate. Cosa devo fare ora? 2 di 4 più 31. Quindi chi mi dà 2 di 4? 31 per 4. Oh, questo è quello che mi piace. Notevole. Però ha sempre la damage le dà. 2 di 4, sì. 5, giusto? Sì. 5 più 31 per... Aspetta. Quante volte? 31 per 4, cos'è 5, scusa? 5 più 31, 31 più 5 fa 36. Ma tira tutte le volte. Devi tirare 8 volte i dati. Ok. Cioè, certo, 4 volte. 4, 4 volte i dati. Da 5, vabbè, allora 5 più 3. 3, 8. Più 5, 5. 13. Ultimo. Più 4, 4, 17. Più 31 per 4. 124. Meno il quadruplo della damage reduction. Comunque notevole. 141. Insomma, comunque la. Quanto ci avrei damaggiato? Reduction, roba genere. Boh, 15, non lo so. Ok, ora ti tocca. Perfetto, non faccio la somma. Cioè, comunque gli ha fatto un bel po' di danni. 141. Meno damage. Meno 60. Comunque sono 80 danni. Che sono tanti. Oh, vabbè. Dai, adesso tocca a Khan, mi sbaglio? No, Khan ha fatto prima, ma è mancato di un pollo. Ah. Ma Bacca è stato sulla lava. Che adesso non ricominciano. Non prende damage overtime. Sì, chi se ne fotte, Bacca li prenderà. Amen. Li prende tutti comunque, prossimo round, perché avete addosso ancora della lava. Ah, veramente? Non c'è scritto bene. Ma dai, e non posso scrollarmela con una full round action? La lava. Che cazzo lo so, magari c'è scritto. No, non si può. Allora probabilmente sono morto. E allora. Sì, non prendi altri 15 di 8. Cioè. Vabbè, però comunque ho tipo 15 PF. Vabbè, mi resusciterete. Ah no, calma e gesso. Infatti poi è troppo forte. Ah, ecco. Era una linea, non un cono. E quindi? Quindi non ci ha preso tutto. Esatto, quindi poi che ha colpito Bacca, perché era lì davanti. Sì. Giusto perché è assente, esatto. E subito dietro Bacca chi potrebbe aver colpito e perché non è stato preso? Vediamo un po' chi vuole là dietro Bacca. 1, 2, 3, 4. Quanti? 2? 2 di noi? No, uno solo, dai. Sì, non ha tutti dietro Bacca. Ecco, no, fai che verosimilmente voi due no, in effetti. Come no? No, perché loro lo colpisco all'istanza mica si mettono dietro. Ma è alto! Può benissimo essere, tira sto di 4, non cagare il cazzo. No, noi colpiamo a distanza. Siamo sui lati, scusa. Stai zitto? Cosa c'entra? Noi siamo uno di qua, uno di qua. E come, cioè, se muoio io, che è che ti cura? Cos'è che muori tu? Io c'ho la cioè, non scappi mai più da qui, zio. Non sono punti di vita. Dai. Sei due? Di 4. Sei in due, sì, se passano tre. No. In realtà non ha tirato niente, ha tirato una gomma. No. Perché dovrei essere dietro Bacca? Un dado con anche quattro facce di Davide, piatto. Sai che fa una linea questo, scusa. Quindi noi non abbiamo preso. Ma perché per forza qualcuno doveva essere dietro Bacca? Io tirerei una percentuale che ci sia qualcuno dietro Bacca e poi... Dai, dammi una gomma. Detto dai, lamentati un po' a me, dammi una gomma. Va bene. Dai. Mi metti una cosa, una bacchetta, qualche branato, qualche vuoto. Dicevo. I miei 65 anni sono cancellati. Questo mi piace. Che tu sei un cancello. Li devo segnare anche a Bacca. No, Bacca non l'ha. L'unico che non li doveva prendere. Sì, era davanti, sì, era davanti. Non è stato. Non è più. Perché sono scemi? Neanche io l'avevo passato. Bacca era davanti e dietro Bacca c'era lui. Quindi li hanno presi loro. Infatti. Scusa, Bacca li ha presi i danni? Anche se prima è stato salvato. Vabbè, ha superato il TS. Ma lui forse non ha preso il giro danni. Vision, no. Vision. Che prende la metà lui. Ah, ok. 30. Ma lui non ha i vini. 65 diviso 2, cosa sono? 32, 33. Infatti, dai, allora so, ti sempre. Tocca. Lo so. Stavamo parlando fino adesso, non è che c'è questa pausa abissale tra quanto finito di parlare. Dai, voglio sapere chi tocca. Tocca da Massimo. Voglio sapere quanto muoio. Tocca a me? Sì. Ma le prendo nel turno del tizio. Devi essere così negativo. 14 allora, più 16 fa 6. Non ho modo di agire. Ce l'hai ancora 15 punti di vita. 30. Ma, scusa un secondo. Come ne va della mia iniziativa urlando. No, aspetta. So, beh, mi vedo che sono coperto di lava, no? Quindi anziché fare fly di massa posso cambiare adesso che so sta cosa. Ma tocca a te dopo. Ma prendo i danni prima. No, li prendi nel turno del tizio. Che agisce prima di me? No. No. Tu non hai ancora agito sto turno, cosa vuoi? Tu hai agito su 14. E perché ha fatto fly di massa? Come ha fatto a fare fly di massa? L'ha fatto prima. Fly di massa non l'hai fatto prima inizio del combattimento. Fly di massa l'ha fatto dopo la lava. Fatto durante... E perché l'hai fatto dopo la lava? Perché t'ho chiamato io? Sì. Perché eri dopo cosa? No, allora non ero toccava, dopo. Te ho sbagliato. E allora non siamo. Toccava prima a Damasco. Non stiamo. Ah, tocca prima a Damasco. Sì, sì, Damasco. Ma Damasco ha già agito, io non ho ancora. No, Damasco quando agito? Non ha agito. Ah, non ha agito, allora vai. Ah, sì che ha fatto. Ah, ha agito con Max. Allora noi non stiamo con Damasco. Allora vai, scusa. Allora tu non vuoi finire. Quando... Ho agito io, che l'ho mancato malamente. Vai Damasco. Vai Damasco. Faccio 30. 30 totale? No, ho colpito. Sì. È 30 totale. Sì, però soltanto la prima. Quindi due volte. Tre con Ace. Ah, scusa. Aspetta, devo cambiarti la bag. No. Stai tranquillo. Allora. Sono tranquillo. 30. Tanto, cioè, nel senso, se muoio mi resusciterete. Però dovete uscire di qui senza il gol. Non preoccuparti. Vabbè, dai, questo qua non è resistente. No, dico di uscire dalla città. Ma sono un guento. Ah, l'avete portato, giusto? Bravo. Abbiamo portato. Ne ho tre? Toccarti, perché sì. Tu sei legato effettivamente. 29. Chi è che usa la toccarti? Lui. Ma tu, 40. La tua cazza la porti sempre dietro quando vai a combattere. La mia? La lasci in barca. Cosa? La lasci. Ma cosa? Il tuo cadavere. Che ti ho fatto 99 danni. No, certo, è sulla nave quello che ho dietro. Il mio cadavere che cosa? Meno la mia casa. Il tuo cadavere. Ah, perché sai, scusate, che è il cadavere di me stesso da vecchio. Non lo so, quello della moglie, non lo so. O di tutti e due. Tocca a me? Allora, Shadow Conjuration, evoco dei bralani che non sono più così sgravi a curare, però un pochino curano. Ma non c'erano... Shadow Conjuration, evoco un D4 più uno di bralani. No, un di 3 più 1 di bralani. Questi bralani sono simbolo della campagna. 3. 4 bralani evoco. Fallisco volontariamente il tiro salvezza e quindi prendo le cure full anziché prendere al 60%. Ma mica non si poteva fallire volontariamente. Sì, che si può fallire volontariamente un tiro salvezza. Ah, giusto. La bacca altre volte l'aveva fatto tirare. Ma tipo quando c'hai. No, perché lui è obbligato a tirare. Le cure. Quando è in mira. I bralani, però, e ormai cioè, provano a castarli overclockati per fare più 6, ma. Non credo che ce la facciano. Vicino mi ricordo, era tipo. Era 15. Ma non ci fai fly di massa? No, ma figurati, cazzo me ne frego, io volo. Ma lui di poco. Ho detto che devi dividere poco perché lui si è preso i danni. Perché a me si prendevate voi comunque. Cioè, infatti. Babbi. Tu prova a dirmi la DC se riesci. La DC era 15 più. Tanto mi sa che non sommano niente a Spellcraft, quindi non hanno molte possibilità. O neanche un punto a livello dell'incantesimo più il livello minimo per lanciare l'incantesimo. È il livello minimo per poter lanciare l'incantesimo. Livello minimo è un incantesimo di primo livello, quindi 1. Quindi 1, sì, 1 più 1, 17. 17 la CD? Sì, vai, fattibile. Sì, non sommano 1 di intelligenza. Sei schifosi. Allora, 10, fallito. Quale 16? 14 fallito, 2 fallito e 9 fallito. Okay, curano un dado da 8 più 1, giusto? Sì. Quindi mi curano 4 dadi da 8 più 4. Guardatevi come... Dopo si prepari comunque Eren. Ok. Lo vedete anche voi? 5. No, ho tirato 3 dadi da 8, ho fatto 1, 2, 2. 5 più 4 siamo a 9. Hai un altro salto 8. Mi fare ancora 8 se vuoi. 5. Oh, 9 più 5 14. Più 1 6. Perché? 9 perché più ah no, avete già, abbiamo già sommato sì. 4. 14. E già hai dato più dei punti vita. Cioè, ho fatto 14 con 4 dadi da 8 più 4. Vabbè, non sai quanti sono i damage over time, dai. Sì, ok. Ma quanti giri sta schiacciando i damage over time? Tutti i giri fino a... Non lo sai. Ma non posso scrollarmi in qualche modo? Oh, basta, sì. È lava, ce l'hai addosso, ti prendi sti round, è appiccicosa, ce l'hai anche su per il culo, quindi non riesci a toglierla. Va bene, poi... Dodo, vieni qua, per favore. No, mi piace fare la ragazza francese. Uccidete questo tizio. Muoio. Adesso la pazienza. Sì, fagli anche shocking grass. Tocca... Però insieme a full up. Vieni appunto, sì. Come ho detto prima. Dopo di Eren tocca a Lino. Vai, fagli un shocking grass con dentro full up. Okay. Full up. Tocca lui il cattivo? No, dopo Eren. Ah no, prima c'è Khan. Prima no, prima. Scusate, vieni di te, c'è Khan. Okay. Vai, Khan. Scan. Scannalo. 2. Ti ha fatto 2 col dado. Che sì. Non muori. La vita. Ma allora, puoi fare. Scusa, quanti... Con i blessing, quindi 0. Dai, basta. Come 0? Scusa, hai solo un attacco. Inizia così adesso. Mi spiace. Basta. No, io voglio fare tutti. Dai, ti tocca, Deleni. Li fai tu? Io volevo fare un full attack con shocking. Prima ho tirato 5, adesso ho tirato 2. Vai. 16 più 19. Uguale a prima. Come prima? Quindi sì. Guardiamo prima. 4. Però no, aumenta la varianza in una maniera spropositata. Poverino. Quindi. Ti prendo tutti per aumentare la varianza. Quindi 4 attacchi più. Sì. Ok. E devo fare solo. Sempre... Ho preso 14 attacchi. Ho superato. Ho superato la spell resistance. Ho fatto 19, Danilo. Spell resistance 19 superato. Io ovviamente. Dopo li faccio 1 a 1. Tanto ho perso anche un ace così. Oh, basta. Mamma mia. 6. Cioè, ma 12. Stai zitto. Ci ha preso 65 danni, sto per prenderne altri. 20, 24. 24 danni. Ma ricordiamoci di che anche Basta prende da maggior overtime. 24 lui, danni di shocking grasp. Danilo, se riduce o annulla il tuono, 24 danni di shocking grasp. Ma così pochi, scusa, ma quanti ti servono? Sono 5 danni. Di... aumentato. Ok. Aspetta un attimo, dimmi i danni totali, poi li riduco tutto. Ok. Ah, 56. Però 24 più... anni. 24 più questi devo fare, giusto? Più 10. 30... Sì, ma c'hai ancora. Ah, perché ah, fuori lo shocking gas. Niente. Perfetto. 34 sono però. Morto. Sì, è morto. Ok. Questo sì, è dato un po' più di gradi. Muoio? Ah, giusto, fai un tiro salvezza riflessi. Insomma, il solito 3 sul dado. Da 20. Più. Da 20. Quindi per i danni fatti PFI buona trentina 29. Aspetta, ho visto il calcolo da te. Dai, quanto tira? Inizio a tirare un di 6, poi inizia quante volte. Ma cosa? Aspetta, io ho esattamente PF. Aspetta, 15. Ne ho curati prima esattamente 15. 14 hai curati, stavi 15 prima. Aspetta, ne abbiamo curati 14, quindi sono a 29. Cazzo, sono quindi tu stai in ansia. Metta meno il primo 6. No, scherzo, 7 no. 14. Allora? Sì, vuoi sapere in tutto quanti ne ho? Sì. Allora 79 meno 65 più 14 28. Potevo morire con quel colpo perché erano 15 di 8. Sì, potevo tranquillamente morire, sì. Però vabbè, quindi 28 PF 15 di 8. Bene. Oh, c'ho 28 PF, sotto la media. Allora, ti di 6? Quanti ne hai? 28. 4 più. Ah, 4. 4, 8. 2. 10. Quanto hai ancora? Ancora 18. Tirati 3 per ora, giusto? Mm-hmm. Più 5. 5. Allora la media è bacata, No, 4, 2, 5. La media è 3,5. Siamo a posto. Sì. Siamo a 13. Quanto sei ancora? 13. Ah, ma aspetta, ma i bravi mi curano. Tranquillo. Non è il tuo round, è suo. Ah, allora. Che ti cura? Scherzavo. 3 danni ancora. Siamo a 10 punti vita. Ultimo. Ah, vabbè. No, devo dire che è l'ultimo. Dai. Bruciato così, 4 danni. 4 danni. 6 punti vita. Dai. Però magari anche il prossimo round avremo questa simpatica sorpresa. Infatti, non sapete quanto dura. No. Riesci a... Più che altro non è tanto che... La lava riesci a scostarti. Si è raffreddata. Si è raffreddata. Si è ormai solidificata. Esatto. Ho 3 PF? Sì. No. 4, 6, 8, per no, terra. 4, 8, 12 più 6, più 5, scusate. Sì, dai, lo stesso. 6. Cado per terra distrutto, preso per... È un po' più cattivello l'innorme. Sì, beh, comunque, me ne siete sbalzati in fretta anche di questo. Che male che hai. Afferro per la caviglia il Bralani, lo Shadow Bralani. Che curami! Che riesco... Ma tu che sai che non sono vero, non ti curano un 60%. No, no, amico, perché ho fallito il tiro salvezza. Ah, giusto. Perché io mi abbandono a quello che io stesso creo. Sono completamente una Zen philosophy. Certo. E quindi adesso mi ma curano. Perché non crei dei Bralani veri, sto giro? Perché i Bralani veri impiegano un round per arrivare compagno il turno dopo. Che te ne frega? Cioè, sì, adesso potrei creare altri, morto, però intanto... No, prima sì, però adesso... Visto che non c'è più urgenza, adesso mi curo con le bacchette. Infatti. Anziché sprecare incantesimi... Bravi, bravi, senza dubbio, bravi. E questa ricompensa allora? Eh? Sì, ecco, scompare... Eric e compare... Dai. Ah, dai, 7, 3, 10... Oh, 8 e 6, minchia, stavolta ho fatto... Un plan. Ho fatto 3 più 7 più la ricompensa. Beh, non è mai riuscito a battere il Lino, non sono sincero, anche perché non è che mi capiti molta gente da queste parti, un po' tanto ombre che vogliono mangiare cose. Per fortuna la ritengo abbastanza bada quando mi capita sto tiro, hanno imparato a non venire su questa isoletta. Dunque la ricompensa, sì, c'ho ancora quello, dice, no, comunque tardi, no, certo. Che sarà quasi lungo. Minchia, mezzanotte 35. Ah sì, adesso stacchiamo. E cosa vediamo comparire? Un Balrog. Sei fighissimo. Quando vi sento, devo metterlo da qualche parte. Comunque, che io non abbiamo neanche visto l'immagine di quello che abbiamo sconfitto. È vero, faccio vedere. Ah, scusate, questo qua. Sì, mi ha risposto che è invincibile. Quale? Ah, che bello. Quale dei due? Quella sinistra. Ah, ma aveva la coda prensile. 3 code prensile. Sì, non ha fatto gli attacchi naturali, ha fatto solo il con, cioè il con raggio. E cos'ha ora? E adesso arriva questo simpaticone. Vedete, comparire questa creatura rossa con 6 zampe. Sì, però bipe, si regge su 2, le altre 4 sono in giro. C'ha una coda da cui esce una bocca di serpente che sputa fuoco. Madonna. Detto che era figo. Che figo, vediamo. Tu adesso sei full, dai. No, intanto devo mi curo con le bacchette. Devo fare la cameriera nel mio cavolo di paesino. Allora, bacchette. Questo qua. Quale? Questo? No. Ah, che bello! È un orso con le corna e una coda a serpente che sputa fuoco. È proprio bella. Che figo! Bellissimo. Baka, su questo il fuoco non funziona. Con due braccia in più. Dici, neanche se quello di prima. Per quello che non ho fatto raggiù lo vedo. No, meno male, dai. Se no lo sprecavo di testa. Ok, quindi compare e niente, chiuso. Fine della sessione.